imitava l'arte del governare entro confini angustissimi, al sollecito delle cause civili e penali e ad altri ovvi negozi che non mette conto prendere in considerazione. Diceva d'essere persuaso che chi riusciva a far crescere due pannocchi o due fili d'erba in una zolla in cui prima ne cresceva uno solo era più benemerito dell'umanità e rendeva maggior servizio al proprio paese che non tutta la razza dei politicanti messi insieme. Il sapere di quel popolo è scarsissimo, poiché si limita alla morale, alla storia, alla poesia e alle matematiche, discipline nelle quali indubbiamente eccellono. Le matematiche intanto si studiano in quanto possono essere utili all'agricoltura e alle arti meccaniche. Da noi sarebbero screditate se fossero ridotte a così poca cosa. Parlare poi a quella gente di idee, entità, astrazioni e trascendentalismi è come dire al muro. Nessuna legge del paese può essere redatta in un numero di parole superiore a quello delle lettere del loro alfabeto, le quali ammontano a 22. In realtà, poche delle loro leggi raggiungono questo massimo. Sono formulate nei termini più chiari e semplici, e in questi la gente lì è troppo tonta per scoprire più di un'interpretazione. Scrivere un commento sopra una qualsiasi legge è un delitto capitale. Dai viaggi di Gulliver. Per troppo tempo, hanno voluto farci credere che Como fosse più o meno così. Una città molto simile alla rappresentazione che Jonathan Swift nei suoi viaggi ci fornisce del regno di Brobdingnag. Noi invece vogliamo mostrare una Como diversa dalle consuete visioni, lontana da stereotipi e aliena da qualunque sterile pessimismo. L'arte del governare può non essere limitata entro confini angustissimi, è in grado bensì di estendersi fino ad abbracciare il coraggio delle scelte e sorreggere il peso di nuovi argomenti. Il buonsenso e la ragione non sono doti fini a se stesse, ma sono elementi che possono essere sorretti dall'esempio virtuoso delle buone pratiche, da capacità e diligenza. Un sano pragmatismo unito alla voglia di esprimersi al meglio, laddove meglio significa quantità non meno che qualità, virtù caratteristiche della società comasca, virtù da difendere e sostenere. Forma e sostanza in tutto ciò sono inscindibili. Nelle zolle può crescere ben più che un paio di misere pannocchie. Serve però una rinnovata capacità di ascolto, un risveglio del senso di appartenenza ad una comunità, uno sguardo rivolto alla terra che non esclude, anzi rimanda, al cielo e al vento che soffia. Il sapere del popolo qui a Como non è scarsissimo, è anzi potenzialmente un sapere ricco, variegato e aperto, e non potrebbe essere altrimenti, se è vero che Como è una città, una polis, per natura e storia situata al confine, quindi al crocevia di esperienze e mondi di vita caratterizzati da pluralità di voci e necessità di reciproco confronto. Le idee possono diventare, le idee e lo diventeranno, un pungolo, una sollecitazione per trascendere il muro fisico e mentale che è stato innalzato davanti ai nostri occhi. Como, in altri termini, non è destinata né all'immobilismo né all'autocommiserazione, e in questa sala ne abbiamo e ne avremo le prove. Da tutto questo e da molto altro ne può scaturire, non come in Swift, un numero di leggi limitate da un povero e stringato alfabeto, bensì viceversa un alfabeto che può innervare di sé una lingua nuova, un discorso che potrebbe diventare lo spunto per una narrazione insolita, creativa e suadente di questa città. Una storia dove etica ed estetica possano ritrovare il loro giusto senso, misure e canoni degni di una storia millenaria. Vogliamo crederci. Benvenuti alla prossima fermata Como. di ascoltare gli altri, perché di questo si sta parlando, di persone che parlano, di gente che ascolta, sembra estremamente interessante. Mi sembra geniale questo fatto di 5 minuti, perché è una cosa importantissima. Ricordo una poesia di Brecht quando dice: caro compagno di Vicente, non te la prendere se qualche giovane ti mette in dubbio, ricordati che tu sei quel posto lì perché una volta hai messo in dubbio quello che c'era prima di te. Questo vorrei che ci si ricordasse. Allora, questo era un po' il filmato esemplificativo di Prossima Fermata, quella originale, quella di Firenze del 2010, quindi questo è lo spirito che vorremmo riprodurre qui oggi. Io che sono Paolo Sinigaglia, Alessandro Vergari e Guido Rovi, che è su mia regia, che siamo i due organizzatori di... Allora, cominciamo da Alberto, ti passo il microfono, sì, sì. Per stare lì, Guido, ci dovrebbe essere il PowerPoint aperto. Abbassami per favore. Sì. Un po' il... Si sente? Devi ripartire, scusami. Da capo. La luce. Sì, buongiorno a tutti. La prima immagine è nota, diceva, dopo gli anni dell'arroganza e dell'incapacità, come non può più soffrire. Allora vi sparo lì una sequenza di verbi e di immagini su quello che si può fare e che abbiamo fatto. Poche parole, tanti verbi e tante immagini anche, credo, piacevoli da vedere. E pochi commenti che farò. I bambini indagano sul traffico fino a Mornasco. I bambini riscoprono i percorsi casa-scuola a Sagnino per non andare a scuola in auto. Fanno il plastico del quartiere. Si identificano col progetto. A Meda, un bel po' di anni fa, si simula un parco urbano di quartiere. Via Giussani, la metà basta, anni 97-98, è ancora così, larga 11 metri. Un tentativo simbolico di unire gli spazi collettivi della città, la giornata della creatività con gli studenti del Giovio, la riscoperta dei lavatoi con maschi e del tema dell'acqua che oggi è molto attuale, come sapete. Creare, ritrovare un albero abbattuto, gigantesco e farlo diventare un trono per un parco a Vedano Lona. Animare una strada che non deve essere soltanto delle auto, anche qui parecchi anni fa a Meda. Questo non c'entra con i nostri lavori della città possibile, ma è un'immagine bellissima che parla da solo. Ancora Sagnino, collaborazione insegnanti, bambini, genitori. Progettare anche con ottimo livello tecnico. Progettare con i bambini una struttura gioco. Avedano Luna. Pianificare la ciclabilità per dire che le due città, le due Como sono facilmente collegabili. Riaprire i sentieri della Valle del Cosia. Lavorando insieme ai ragazzi, li vediamo dopo, del campo di Legambiente. Segnalare le cose che si fanno. Segnalare i sentieri, ma segnalare le iniziative, comunicare, allargare i confini, campo internazionale di volontariato. I bambini di Erba che votano il progetto del cortile. I bambini del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Fino Mornasco che votano sul progetto della Fino Via. Sporcarsi le mani. Nell'unico modo possibile. La struttura realizzata sul progetto dei bambini a Vedano Luna. Un drago fatto con i salici viventi a Erba, genitori, bambini, insegnanti, tutti insieme. Il ponte sulla linea del tram, primo spunto per il parto della Valle del Cosia. Comunicare tutto questo, sensibilizzare, far capire che tutto questo si può fare. Comunicare, mostrare quello che si è fatto, quello che è possibile. Recuperare le vecchie biciclette dai cortili, dalle discariche. In questo caso con l'aiuto degli amici della comunità La Quercia, liberare le vecchie bici e rimetterle in circolo, colorare con un bel colore arancione, che ci piace tanto, colorare i percorsi ritrovati a Sagnino, a casa, a scuola, tonnellate di gessi che sono andati su questa cosa qua, denunciare in modo ironico una cosa che ci sta un po' sullo stomaco, ovvero i SUV. Pedalare, sempre più pedalare, osare, sognare e partecipare. Sono stato nei tempi, vi ringrazio, avanti il prossimo. Si preparano Bruno, Roberto Acerbis, se c'è, e Daniela Rigoni. Vedo che in materia scientifica non seguite Aristotele, ma non capisco. Se respingete la sua scienza, perché mai ne difendete la filosofia? Non mi direte che siete anche voi del partito degli innovatori e che respingete ogni genere di filosofia? Non respingo affatto la filosofia, ma le dottrine che gli appaiono costruite su fondamenti poco sicuri, come sulla sabbia. Mi dispiacerebbe che attraverso questa via giungeste allo scetticismo. E questo è un pericolo, e voi lo sapete bene. Cosa fate per evitarlo? Io non cerco altra scienza di quella che posso verificare attraverso me stesso. E traggo le mie lezioni dalla vita, piuttosto che dai libri. Ma se l'autorità dei filosofi vi adombra, chi altro pensate che possa guidarvi? Il convincimento, padre mio, che vi sono con lo stato naturale, nel nostro animo, dei semi di verità, e che proprio questi semi sono in grado di darci la capacità di distinguere il vero dal falso. Dei semi di verità. Dovreste scrivere queste vostre osservazioni sulla filosofia del nostro tempo. Ne potrebbe nascere una discussione molto utile. Scrivere? Oh no, no, non posso farlo, padre. Non ho ancora riflettuto abbastanza. Era un filmato per dire, per mostrare quanto sia importante e bello dubitare, a patto che il dubbio sia costruttivo. Era tratto dal Cartesio di Rossellini. Parola Bruno. Allora, la mia parola e il mio intervento la vorrei dire in fondo, però se la volete prima potremmo dirla così: insieme si può. Allora, dopo tanto tempo di esperienza anche politica, mi sembra che questo momento possa essere utile per fare un pensiero un po' diverso, un pensiero sull'uomo, un pensiero sulla persona, se volete un pensiero antropologico. I tempi che noi viviamo sono abitati da un'idea che tu ce la puoi fare da solo, e magari rivolta all'altro che tu devi farcela da solo. Quest'idea negli anni passati è stata radicata profondamente ed è la matrice di ogni forma di individualismo. E se voi pensate a tutti i fallimenti che ci sono dentro la nostra società, dentro il nostro mondo, sono proprio in qualche modo riconducibili a una grande arroganza di un'umanità presuntuosa, convinta di potercela fare. Quindi l'idea che io intendo, come dire, suggerire, è quella di provare ad abitare dentro un'idea diversa, dentro l'idea di una fragilità comunque presente in ciascuno e dalla quale non possiamo non partire, anche quando siamo forti, anche quando siamo vincenti. Se questa fragilità viene assunta, voi capite che vengono meno una serie di pensieri errati, come per esempio l'idea di merito. Non esiste il merito, ma esistono le storie. Non esiste il fatto che io sono più di qualcuno, esiste il fatto che la mia storia mi ha portato ad essere lì invece di un altro. Noi portiamo dentro di noi l'eredità di una storia, degli ambienti nei quali siamo cresciuti, delle opportunità che abbiamo avuto, degli incontri che abbiamo potuto sperimentare. E allora, quando noi siamo consapevoli di tutto questo, evidentemente non possiamo più farne qualcosa di nostro, ma eventualmente soltanto capire che questo di più che eventualmente ci ritroviamo non ci appartiene. Perché dico questo? Perché io credo che dentro l'idea di politica, dentro l'idea di amministrare, ci debba stare l'idea di una grande impresa collettiva. Ritrovare l'idea non di una solidarietà in cui l'altro che non ce la fa diventa lo sgabello sul quale io salgo per diventare anche buono, ma piuttosto quello che mi rappresenta in maniera ancora più forte l'immagine di una fragilità che anch'io porto dentro e che, se ancora non ho avuto modo di sperimentare, mi aspetta dietro l'angolo. Voi sapete che in questi giorni la nostra amministrazione ha deciso che per esempio si deve riaprire il tema della disponibilità di servizi come quelli dei nidi, che sono dei servizi costosi. Pensiamo alla sanità: c'è qualcuno che immagina che la sanità io debba pagarmela perché sono capace di pagarmela da solo, e poi dagli altri che cosa ce ne importa? Negli Stati Uniti ci sono oltre 40 milioni di persone che non accedono a servizi sanitari perché se li possono permettere solo alcuni e non loro. Allora io credo che noi dobbiamo riabitare l'idea che io voglio essere parte di un sistema che rende disponibili anche a coloro che non ce la fanno le opportunità e le possibilità che io pretendo ed esigo per me. Credo che questa sia una premessa culturale della quale non possiamo fare a meno, che dobbiamo fare transitare in tutte le piccole e grandi cose che abbiamo in mente di fare e che vogliamo fare domani. Senza un pensiero quindi sull'uomo, sulla persona, su un'idea, noi andremo semplicemente a replicare le nostre gare, le nostre competizioni, un nostro io smisurato da proporre contro quello dell'altro che è più debole, a immaginare che nel mondo la vita possa essere rappresentata nell'immagine della gara. Noi dobbiamo confliggere con questo pensiero, dobbiamo promuovere un'altra antropologia, un'altra idea di persona, un'altra idea di mondo, che non è semplicemente da raccontare, è da mettere in pratica in tante piccole e grandi cose che andremo a fare insieme, che vanno, se volete dirla così, dal fatto che raccogliere tutti e separarli è una cosa che riguarda tutti e non può essere semplicemente un passaggio imposto, dal fatto appunto, come dicevamo un istante fa, che l'idea che tutto possa essere vissuto dentro un modello di tipo solidale è ciò che noi vogliamo proporre, perché è quello che abita dentro di noi, è la nostra idea di persona, è la nostra idea di uomo. Grazie. Bruno, la parola quindi è? Bruno, scusa, la parola è? La parola insieme. Insieme. Alberto, la tua parola? Era partecipazioni. Partecipazione, no, va bene. Lo sapevamo. Buon pomeriggio a tutti. Uno dei motivi per cui siamo qua è anche quello di presentare alcuni cortometraggi fatti da Pomaschi su territori per Pomaschi. Io sono Pidorodi e quello che andiamo a presentare adesso è un cortometraggio che parla di quello che è la città, di quella che è la parte a volte dimenticata della città, che è una parte diversa. Se alzando lo spegnere le luci possiamo farlo andare. Una parte che non conosciamo. Restiamo umani e gli dare i tuoi occhi, queste cose non lo danno. Giusto della Valle, sono prete, parroco della parrocchia di Rebbio dal mese di gennaio 2011, insieme ad altre persone, parecchie altre persone, da alcuni mesi, da fine maggio, sta dandosi da fare per l'accoglienza di alcuni profughi provenienti dalla Libia. Uno di quegli argomenti che, come dire, parlano alla pancia della gente, suscitando reazioni spesso molto estreme. Parliamo di profughi, parliamo di immigrazione, parliamo soprattutto di accoglienza, un problema reale in città e non solo, dove negli ultimi mesi sono arrivati molti stranieri reduci dai fronti di guerra del Nord Africa. Siamo a Rebbio, nella casa parrocchiale di Rebbio, dove da alcuni mesi una trentina di stranieri ha trovato un'accoglienza provvisoria. Ci sono delle realtà in città molto peggiori di questa, come per esempio la ex rasa di via Scalabrini, dove un vecchio stabilimento abbandonato, dove diverse decine di stranieri ha trovato un alloggio provvisorio, dove nei giorni scorsi uno di loro si è per esempio tolto la vita. Cercheremo di focalizzare l'attenzione sul problema di questi profughi, sulle possibilità che vengono loro offerte e sulle prospettive che gli si vorrebbe in qualche modo garantire. Lavorare nel giardiniero in Libia. Per quanti anni? Libiani, quanti anni? Tre anni in Libia. Come giardiniere. La tua famiglia dov'è? La tua famiglia dove? Gambia. In Gambia. Quanti figli ha in Gambia? Tre bambini. Stiamo umani, è una frase che si usa abbastanza in questi ultimi mesi. Un po' di umanità vuol dire le cose essenziali della vita, il salutarsi, il conoscersi, il non cadere nei luoghi comuni, aiutano i profughi, non aiutano i nostri anziani, i nostri malati, quando sappiamo benissimo quanto l'Italia spende in missioni di guerra in Afghanistan, in Libia o in Iraq, ecco quanti soldi si spendono inutilmente che potrebbero essere destinati a tutt'altra, a tutt'altro utilizzo sociale per l'Italia e per chi in Italia ci arriva. Lavoro perché tu non sei di in casa sempre sempre. Non lavoro, no bene. Lavoro. Sono Luciana Spalla, sono l'ispettrice del Comitato Femminile della Croce Rossa di Como. Facciamo l'accoglienza e in più seguiamo i nostri ragazzi. Una grande mano ce la dà il parroco di Rebio, Don Giusto della Valle. Infatti ci coordiniamo, ci aiutiamo a vicenda. Tra insegnanti, volontari vari, 60, 70, anche 80 persone solo nella nostra circoscrizione, ACLI, Caritas, Croce Rossa, vari volontari di Como e dintorni per, ripeto, per non subire la situazione ma per affrontarla in modo un po' creativo. I profughi si arrangiano, si fanno da mangiare, pensano al loro vestiario, si lavano i vestiti, pensano alle pulizie di casa, ecco, si è voluto da subito non fare degli assistiti. Ad ora noi non abbiamo ricevuto nessuna visita ufficiale dall'amministrazione comunale di Como, ecco, mai nessuno è venuto a dire a questi profughi ben arrivati a Como. Sappiamo venite da situazioni difficili, venite dalla Libia dove c'è guerra, ben arrivati. Sono stato anni in Africa, però quando persone nuove arrivano in un villaggio, il capo villaggio si premura di salutare. Questa fase molto umana, ecco, senza andare oltre a chiedere interventi immediati, eccetera. Questa attenzione è mancata e sta mancando tuttora, come se si dicesse, arrangiatevi voi, questo problema a noi non interessa. Grazie a Dio, grazie a mio mamma, a mio padre Pandusco, grazie a tutti Italia, perché io arrivo in Italia, cioè, a casa mangio bene. Capito che la panchina è una metafora, soprattutto per i giovani che devono sempre stare in panchina. Allora, la mia parola è comunicare. Mi chiamo Daniela Rigoni, insegno nella scuola di San Vitale lingua italiana per gli stranieri. Cioè stranieri appunto arrivati come questi che abbiamo appena visto. Allora, la scuola è nata 2 anni fa nei locali ricavati anche qui con la collaborazione di molti della parrocchia, da 5 locali della parrocchia stessa, e quindi si sono formate 5 aule ed è attiva dal settembre del 2010. Sono stati promotrici 2 giovani coniugi appena arrivati qui dal sud. È nata proprio per dare una risposta, un bisogno: comunicare, imparare la lingua italiana per comunicare anche solo sul piano umano, per poter entrare in relazione con le persone in mezzo alle quali si trovavano a vivere, poi man mano anche per trovare un lavoro, per comunicare la propria cultura, per comprendere la cultura in cui erano inseriti. L'utenza che è arrivata in questi 2 anni è stata molto ampia, perché appena queste persone riescono a trovare un'attività lavorativa, ci lasciano e ne arrivano altri. Comunque si tratta di maschi, di femmine, provengono da tutte le parti del mondo, Europa dell'Est, soprattutto Romania e Ucraina, Africa del Nord, Ghana, eccetera, come questi che abbiamo visto, Asia, America Latina. Con un lavoro pochi, in cerca di lavoro quasi tutti. Alfabetizzati nelle più diversi gradi, addirittura anche universitari, ma anche non alfabetizzati per niente, quindi bisognosi anche di imparare a scrivere. Sono arrivati attraverso la Caritas, Porte Aperte, Aiuto alla Vita, ma anche in questo ultimo anno con Passaparola tra loro. I corsi vanno da quello di alfabetizzazione per chi non sa nemmeno scrivere, a un livello elementare di comunicazione, a un livello elementare secondo in cui accanto alla comunicazione si associa un po' di scrittura, a un livello invece di sostegno allo studio per chi vuole un riconoscimento del proprio titolo di studio, per esempio chi ha fatto corsi di infermieri in alcuni paesi, per avere il riconoscimento devono sostenere un esame in lingua italiana. L'iscrizione avviene semplicemente presentandosi al referente della scuola che attraverso un colloquio indirizza verso uno dei corsi attivi e ce ne sono attualmente attivi 3 di base, uno di livello 2 e uno di sostegno allo studio. L'anno scorso erano invece di più perché erano più variegate le richieste. Si fanno i corsi in relazione all'utenza. Gli insegnanti sono volontari, quasi tutti o ex insegnanti, insegnanti in pensione, studenti ma anche pensionati che hanno di altre professioni, che avevano questa capacità, questo desiderio, magari conoscevano una lingua. I materiali, inizialmente si era pensato di, pensando che qualcuno di loro potesse farlo perché lavorava, che se li potessero acquistare, poi si è visto che era una cosa non possibile e quindi sono stati fatti dei fascicoli che vengono distribuiti in comodato d'uso. I corsi hanno la durata dell'anno scolastico e le classi sono molto vivaci, nel senso che non si sono fatti classi omogenee se non per il livello abbastanza grandi linee, ma poi ci si aiuta a vicenda. Chi sa una lingua, per quello ho parlato di comunicare, traduce nella lingua che conosce l'ultimo arrivato, quello che viene detto, un po' con i gesti, cioè, l'inizio è sempre una comunicazione direi molto simile a quella dei bambini. Poi pian piano la comunicazione diventa più ricca e quindi anche i contenuti diventano più profondi. Qualcuno è venuto e lo ha detto proprio per uscire dalla depressione in cui si trovava per la mancanza di comunicazione più che per imparare. Ecco, una parte dei nostri insegnanti è andata anche su ad aiutare Don Giusto. Dal maggio continua tuttora a lavorare al mattino, dal lunedì al venerdì, tutte le mattine. La parola a Marucci. La mia parola è qualità, che è un obiettivo per la nostra città. È un concetto che è stato storicamente associato a Cuomo, come è stato detto anche nell'intervento di introduzione, ma che è in preoccupante declino. Ed è anche un concetto che non coincide strettamente con il benessere economico. Non è da oggi che da parte di molti si dice che il prodotto interno lordo, il PIL, non è una misura adeguata per valutare positivamente le condizioni della comunità, soprattutto perché non tiene conto della qualità della vita e dei rapporti tra le persone. Viene in mente un famoso discorso del 68, ma ancora drammaticamente attuale, di Bob Kennedy, tra le altre cose diceva: il PIL cresce, il PIL è l'inquinamento dell'aria, il tasso di incidentalità delle nostre strade, la produzione bellica, e il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, per la qualità della loro educazione, della gioia dei loro momenti di svago. E chiudeva: in breve il film misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Quindi una riflessione sulla qualità dovrebbe tenere presente, soprattutto oggi, che le risorse a disposizione sono sì una cosa importante, perché sono la condizione per la realizzazione di progetti a servizio della città, ma non devono mai far passare in secondo piano le finalità complessive per le quali sono gestite. Su tutto deve prevalere l'orizzonte delle scelte, riassunto in una felice espressione di Lazzati, della costruzione della città dell'uomo a misura d'uomo, strutturata cioè secondo la misura dei bisogni reali delle persone, e alla luce della quale riesce meno difficile comprendere cosa vada inteso per qualità. A questo proposito, alcuni hanno individuato un nuovo parametro, un nuovo indicatore, il BIL, cioè il benessere, o meglio ancora ben vivere interno lordo, cioè un indicatore che cerca di misurare la qualità della vita delle persone e delle comunità in cui vivono. Quindi nella sua definizione si tiene conto di altre cose, delle condizioni di vita materiali, dell'aspettativa di vita dalla nascita, del tasso di iscrizione universitaria, della partecipazione alla vita politica, eccetera. E bisogna anche sottolineare che un incremento del PIL non comporta necessariamente una variazione positiva del PIL, anzi spesso si traduce in una sua diminuzione. Esempi sotto i nostri occhi li abbiamo, basta guardare a Como cosa è successo con lo sviluppo incontrollato dell'edificazione o con alcune famose grandi opere che non cito. Cresce il PIL, diminuisce il PIL. Quindi per il governo della città bisognerebbe in primo luogo misurarsi sui veri indicatori della qualità dell'ambiente urbano, con analisi che poi producono l'individuazione di azioni positive. Faccio alcuni esempi veloci. Il primo è il materiale. Un indicatore è il tasso di partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative. Quanto influisce sul bene di una comunità una partecipazione libera e attiva dei cittadini alle scelte? Un altro esempio, il tasso delle aree verdi: il 46% del territorio comunale è edificato e del restante 54% gran parte è confinata ai margini della città. Quanto verde urbano effettivamente c'è a Como? Questo è un altro indicatore importante. Il tasso di inquinamento è rapportato al tasso di efficienza energetica del patrimonio edilizio. Quanto possiamo migliorare questi tassi con un utilizzo di energie rinnovabili a partire dalla preziosa fonte di energia che è il nostro lago? Il tasso di marginalità e di esclusione sociale: quante sono le persone che lasciamo ai margini della nostra comunità? Qual è il nostro tipo di relazione col fenomeno migratorio? Qual è la nostra capacità di creare relazioni interculturali che consentano relazioni vive e il rispetto di tutte le identità culturali? Poi c'è anche il tasso di accessibilità delle strutture pubbliche, l'abbiamo appena sperimentato. Quante strutture destinate ad un uso pubblico sono davvero accessibili a tutti? L'ultimo. Questi esempi ci dicono due cose. Se è vero che il PIL non sempre fa crescere il PIL, è invece quasi sempre vero che un benessere, un ben vivere interno lordo che cresce, fa crescere anche il PIL, perché una costruzione della città dell'uomo che promuove un migliore livello di vivibilità, che favorisce la coesione sociale, che valorizza i beni monumentali e paesaggistici, è in grado anche di esercitare capacità attrattiva nei confronti di attività economiche e anche di potenziare le capacità di sviluppo del territorio. Il secondo è che richiamarsi ad obiettivi di qualità non significa puntare su processi elitari o esclusivi, ma al contrario su una progettualità universale e inclusiva. E in questo senso la qualità è un elemento sostanziale per la costruzione della città, è quello che penso che si voglia fare anche qui. Grazie. palco, grazie Mario, chiamo sul palco Filippo Filippini. L'UDC, la CGL, centri sociali, cioè una comune, diciamo. C'è parte una gara, chi fa meglio, una gara positiva, e compagni del PD di Adro mi chiedono, chiedi di far venire Bersani, sarebbe un bel messaggio. Lui purtroppo aveva un impegno inderogabile, comunque siamo molto presenti come PD, insieme agli altri. C'è tutto quindi provinciale, ci sono dei consiglieri regionali da tutti tipo che partire 5 da lunghe per la mattina. Cose mai viste, positive naturalmente. Svengono insieme bandiere dell'UDC e della CGL. Io sono il stesso bandiere dell'UDC, tra l'altro. Ricca, presente, muto perché non può dire nulla perché non è criticabile, insomma. Io ho dato quel giorno un punto di svolta, ognuno vive diciamo la storia o la cronaca dal punto di vista personale, però io quel giorno ho visto quello che mi piacerebbe che fosse il dicembre, che fosse cominciato ad essere progressivamente di più. C'è una lezione imparata, non dico una best practice, ma una good practice. Abbiamo adesso un breve contributo video, perché abbiamo pensato che è giusto ricordare anche il buon cinema che viene fatto in Italia, che viene prodotto in Italia negli ultimi anni, uno dei migliori autori che ci ha detto cose importanti e cose non banali, Giorgio Diritti, e abbiamo adesso, vi presenteremo uno spezzone tratto dal vento fa il suo giro, dopodiché sentiremo un intervento di Alessandro Campi, un docente del Politecnico. Vivevano ebrei, musulmani, eretici, cattolici, vivevano assieme. Purtroppo a un certo punto l'hanno quasi ammazzata. Sai perché? Perché la gente tollerante. A me la parola tolleranza non piace. Se tu devi tollerare qualcuno, non c'è il senso di uguaglianza. Io credo che la violenza nasce dalla repressione degli impulsi sessuali. E questo si è trasformato in potere. È una società basata sulla frustrazione degli altri. Il più basso dei sentimenti. Un uomo represso prima o dopo si vuole vendicare. Di Alessandro Campi, sentiremo poi Michela Terzi che invito sul palco a sedersi sulla panchina in attesa. Sappiamo mai quello che sta succedendo. Cioè noi sentiamo spesso delle notizie e non abbiamo nessun aggancio con la realtà precisa. Non so, adesso si sta facendo un gran discorso sull'articolo 18. Io credo che nessuno in questa sala sappia quante sono le persone che lavorano a tempo indeterminato, a tempo determinato in Italia con precisione. Io ho provato a fare questa ricerca e ho trovato dati contrastanti, ma a livello di errori di percentuale due cifre. Cioè c'è chi parla di 97% dei giovani a tempo determinato, c'è chi parla di 37%. E non è possibile ragionare se i dati sono questi. Quello che avete proiettato è il... Avete iniziato a far partire tempo, eh? Così mi regolo, sono fatto partire. Allora, dicevo che quello che avete proiettato è un sito internet di uno stato americano che mostra tutti i dati spesi da quello stato. Cioè un cittadino del Missouri può controllare quanto viene speso per comprare le matite, gli stipendi, per comprare i pannoloni degli ospedali, le flebo, eccetera, al dettaglio. Quindi ogni singolo dollaro speso da quel governo è rintracciabile e controllabile. No? Quindi se un'azienda presume di poter offrire un servizio che è già offerto allo Stato, può farlo senza, cioè può farlo perché sa quanto viene speso. Non gli viene raccontata la bugia che il tuo servizio costa di più o cose del genere. Quindi se vogliamo partecipare, se uno vuole partecipare a un appalto, no, hai dati precisi per fare un'offerta migliore dell'esistente. No? Se voglio offrire un servizio migliore posso farlo. Allora mi chiedo perché non cominciamo anche noi in Italia, magari nelle città, a rendere pubbliche tutte le spese sopra i 20.000 euro, per non arrivare al ridicolo di avere online cifre da un euro che poi non servirebbero a nulla. No? Oppure perché non rendere tutti i contratti disponibili sulla rete di modo da sapere a Como chi offre quale servizio a costi e se io penso di offrirlo a un costo minore posso farlo. Andiamo avanti al prossimo slide. No, ora, a questo punto magari può venire un dubbio, ma online la gente non usa internet, no, la gente usa internet e come, no? Tutti comprano cose online, i biglietti degli aerei, le vacanze, ormai è diventato quasi normale, no? Soprattutto la mia generazione, quelli più giovani di me, trovano naturale fare queste cose. Le aziende ultimamente utilizzano molto l'online, però questa rivoluzione non ha assolutamente toccato lo stato pubblico, cioè l'educazione, la sanità, non traggono nessun giovamento dall'invenzione di queste tecnologie. No? Al limite qualcheduno cerca dei indirizzi di medici, ok, ma non c'è una cosa ufficiale, non sappiamo quali ospedali hanno risultati migliori, quali medici hanno risultati migliori, com'è la pulizia degli ospedali. Tutto questo è tenuto nascosto, non è messo online. Andiamo avanti. Prossima slide, grazie. Ok, ma a questo punto uno potrebbe dirsi, ok, ma supponi anche di avere tutti questi dati online. Che cosa ce ne facciamo? Cioè chi si mette a controllarli, eccetera. Ora, in realtà è ovvio, è vero, è un fatto, che esistono decine di miliardi di ore di tempo libero, libera mondo, no? Cioè se noi pensiamo quanto tempo libero spendiamo guardando internet, cercando cose, leggendo i giornali, ci rendiamo conto che è tantissimo questo tempo. E le persone in realtà vogliono usare quel tempo per migliorare la società. Pensiamo al volontariato, le persone che hanno parlato prima su quel palco, i movimenti, i partiti. Andiamo alla prossima slide. No? Pensiamo anche a cose che conosciamo tutti, voglio dire, Wikipedia. È un'enorme enciclopedia creata da persone che lo fanno gratis. Andiamo avanti alla prossima slide. No? Tutto questo è già stato utilizzato da qualcuno. In Barack Obama, quando è diventato presidente, no, ha preso l'impegno che ha mantenuto di pubblicare online tutte le leggi non di emergenza sul sito della Casa Bianca per 5 giorni, di modo da raccogliere prima dell'approvazione tutte le osservazioni e tutte le correzioni possibili. Immaginate se il sindaco di Como, no, avesse pubblicato online tutti i dati relativi ai lavori della costruzione del muro sul lago. Cosa si sarebbe potuto evitare? Quante schifezze si sarebbero potute evitare con le osservazioni, i commenti? Qualche tecnico avrebbe potuto dire qualcosa di sensato invece di lasciare tutto in mano delle persone incompetenti. Andiamo avanti? Ecco, e quello di cui sto parlando non è la visione di un pazzo, ma in realtà esistono già degli studi su come sfruttare queste cose e ci sono fior di aziende americane che sfruttano il fatto che le persone hanno voglia di lavorare gratis proprio per migliorare il posto in cui vivono, per offrire servizi a costi bassissimi che sfruttano appunto la voglia delle persone di migliorare le cose in cui vivono. No? Voglio dire, il volontariato, tutte quelle cose, oggi sono basate su un'organizzazione molto artigianale. No? Cioè per quanto le persone facciano il loro lavoro bene, non c'è un business model, non c'è un'organizzazione strutturata, non c'è una scienza dietro. No? Quindi enormi quantità, enormi risorse vanno alla fine sprecate. Faccio un altro esempio, quello che avete proiettato in TV, è un sito creato da un'idea di una giornalista africana che voleva mappare le stragi che venivano fatte in un certo paese dell'Africa. No? Allora, un programmatore ha realizzato un sito che permette di farlo in modo anonimo, la cosa si è sviluppata e tipo è diventato una serie di portali che mappano, sempre segnalate da volontari, in alcune aree del pianeta all'inquinamento, in altre aree gli edifici fatiscenti, in altre aree è dedicato a raccogliere dove sono le aree pericolose, eccetera, delle città. Andiamo avanti, saltate l'ultima slide, grazie. Ecco, un commento su questa. Noi finora abbiamo fatto questa cosa, cioè quando parliamo di queste cose ci nascondiamo dietro il nostro cervello, parliamo così, difficile, non ci facciamo capire. Invece l'obiettivo da darci, vai all'ultima slide e chiudo, vai, è stato pure, ok, è quello di renderci conto che abbiamo delle tecnologie che non ci sono mai state nella storia. Cioè 10 anni fa questo discorso non aveva nessun senso. C'è una voglia di partecipare enorme che si vede da migliaia di movimenti, da volontariato, eccetera. C'è anche una fortissima indignazione, che però è negativa e disinformata in questo momento, no? Dobbiamo soltanto capire che siamo nel 2012, non nel 94, e usare tutte queste cose, come dice Pippo, perché le cose cambiano se le cambiamo. Cioè, dobbiamo usare questa energia per fare davvero qualcosa di concreto. Grazie. Città che siano intelligenti, quindi la parola nostra di oggi è intelligente. Cosa sono le città intelligenti? Si parla tanto di smart city, l'intelligenza a cui si fa riferimento non è un'intelligenza di tipo verticale, quindi salgo su un palco e vi insegno qualcosa, ma è un'intelligenza di tipo orizzontale, un'intelligenza condivisa, un'intelligenza sociale. Le città intelligenti sono città in cui ci si muove in maniera più agevole, in cui si ha un accesso facilitato ai servizi, in cui si partecipa, come diceva Alberto Bracchi all'inizio, e dove si comunica. Come esempio di utilizzo delle tecnologie a cui faceva riferimento anche il professore precedente, è dato da quello che è successo a Genova il 4 novembre 2011. C'è stata l'alluvione, un secondo dopo il mondo di Twitter e il mondo dei social network si è attivato per comunicare. Possiamo andare avanti? Ancora? Questo era quello che succedeva poco prima dell'una, poi la rete si è attivata. Si è attivata su Twitter, si è attivata su Facebook, si è attivata su una serie di siti che hanno dato informazioni preziosissime per le persone che si trovavano in situazioni di emergenza e dall'altra parte per tutte quelle persone che invece potevano fare qualcosa per aiutarle. Andiamo avanti. Quindi agiamo localmente ma digitiamolo globalmente, facciamo sapere anche fuori dai confini del nostro paese, della nostra città, che cosa sta succedendo. Avanti. Abbiamo iniziato a parlare di web, da qualche anno che parliamo di web 2.0, adesso si parla già di web 3.0 e di web 4.0, che significa non più l'internet di noi che ci mettiamo davanti a un computer e accediamo a delle informazioni, ma dell'internet delle cose, l'internet in cui anche le cose diventano intelligenti e ci possono comunicare qualcosa e facilitare la vita in città. Avanti. Tutti noi abbiamo degli strumenti tecnologici in casa, nella borsetta, in tasca. Avanti. E le nostre città possono essere connesse facilmente, possono essere connesse via Bluetooth, possono essere connesse via Wi-Fi, come dicevo, l'internet delle cose ci permette di far diventare le panchine intelligenti, di far diventare l'arredo urbano intelligente e quindi di condividere le informazioni anche quando siamo fuori da casa nostra o quando non abbiamo a disposizione il cellulare. Andiamo avanti. Servono strumenti, questo è logico. Noi, vi dico in breve cosa facciamo, noi sviluppiamo tecnologie per migliorare la qualità della vita, di seguito ce ne sono alcune, ma avanti. Quello che volevo dirvi è però che forse molti di voi non sanno che Como sta già facendo qualcosa per diventare una città intelligente. Abbiamo avviato un progetto, e Como ne fa parte, un network internazionale di smart city. Per adesso stiamo facendo tante cose all'estero, speriamo di riuscire a farle anche qui a Como. Intanto siamo dentro, speriamo di poter fare qualcosa pratico per farvi vedere queste cose non solo sulle slide ma anche qui in città. Grazie. Grazie, grazie. Adesso c'è un brevissimo filmato che come dire, ci ricorda in poche battute che cos'è stata un po' la politica del nostro paese recentemente, una politica da cui siamo usciti. Dopodiché chiamo a parlare sul palco Civati Andrea e Novati, Stefano Novati. Andrea Civati, consigliere comunale di Varese, e Stefano Novati di Voci. Li invito già sul palco a sedersi magari sulla panchina. Certo, i 15 anni che ci sono stati fallimentari, però noi dobbiamo avere una proposta concreta, vera, precisa per uscire da questo, percorso. E io credo che per parlare al nord, l'abbiamo sempre fatto con Prossima Italia in questi mesi, in questi anni direi, è necessario oltre che capire dove siamo arrivati, anche riuscire a dare delle proposte precise, concrete sui temi che in fondo sono i temi che hanno interessato il nord negli ultimi 15 anni, lavoro, impresa, produttività, territorio, enti locali, però riuscendo a essere molto, se vogliamo, sintetici e precisi, perché le persone, almeno le persone credo che abitano a Varese, sicuramente vogliono delle cose precise e delle cose non troppo fumose. Solo un esempio, parliamo, in questi giorni si parla di lavoro, di articolo 18, una discussione che è veramente, lasciatemelo dire, molto, molto paradossale, dove gli aggettivi sono molti e dove soprattutto mi pare che gli aggettivi vengono usati spesso a sproposito. Noi da tempo diciamo due cose molto chiare, molto precise, che secondo me rendono la sfida che dobbiamo affrontare in questi prossimi mesi. Sul lavoro diciamo esiste una giungla contrattuale che porta giovani a essere costantemente appesi in una condizione di assoluta incertezza di vita più che di lavoro, e dall'altra parte tentiamo di colpevolizzare continuamente chi lavorando 8 ore al giorno ha delle garanzie, delle tutele. Ecco, perché ci sembra che in Italia, sembra quasi che in Italia l'unico sforzo possibile sia quello di mettere l'uni contro gli altri, di mettere i giovani contro i meno giovani, di mettere i precari contro invece quei lavoratori che hanno delle garanzie, delle tutele. Ecco, noi diciamo in una parola contratto unico da sempre ormai con Pippo e con Prossima Italia, ma negli ultimi mesi siamo andati oltre dicendo che non basta cercare di uniformare le tutele, le garanzie per i lavoratori, facendo sì che appunto i precari non siano sempre appesi nella loro condizione e che invece i lavoratori più tutelati si debbano sentire in colpa perché il loro figlio non ha il lavoro, quasi per colpa loro. Diciamo che noi dobbiamo premiare finalmente l'iniziativa, il merito, dobbiamo premiare chi si dà da fare, da lavoratore, da imprenditore, da lavoratore dipendente, da lavoratore autonomo. E quindi diciamo con la proposta di Filippo Taddei che è necessario passare dal mobile all'immobile, anche qui in uno slogan, in una frase che si dice, e concludo. Ma perché? Perché in queste due mosse riusciremo finalmente a premiare chi ha voglia di darsi da fare e allo stesso tempo invece riuscirà a regolare e ordinare il mondo del lavoro in un modo un po' più umano rispetto a quanto è stato fatto in questi mesi. Concludo dicendo che questo esempio è un esempio per dire che al nord dobbiamo parlare di cose precise, dobbiamo prendere nei prossimi mesi una sfida, un problema, un obiettivo e affrontarlo seriamente, affrontarlo in maniera precisa, come spesso, lasciatemelo dire in conclusione, il Partito Democratico non è riuscito a fare neanche sul tema del lavoro che facevo poc'anzi riferimento. E la sfida per tutti noi è dimostrare in fondo che dando 3-4 messaggi precisi il centrosinistra si proponga con una classe dirigente credibile, che gli esperimenti o come dire le grandi eccezioni del nord, Milano, Lecco, speriamo Como, non bufando, ecco, possano essere degli esperimenti, ma degli esperimenti che portano a una regola precisa, cioè una classe dirigente di centrosinistra finalmente credibile. Volontà che risponde a una domanda, sapete qual è una condizione perché è una comunità viva? Ci siamo dati come risposta quella dell'entusiasmo. L'entusiasmo però che è un qualcosa che non si ferma a un livello puramente emotivo, ma che presuppone una volontà, una voglia di ogni singolo partecipante a questa associazione, che speriamo faccia valanga, a tirarsi fuori, a cercare di dare il proprio contributo nella vita civile. Vita civile, che è il secondo pezzo della, della nostra, del nostro acronimo, civile perché è un ripartire da quello che è la società civile. Noi siamo di ispirazione cattolica, non mi vergogno a dirlo, e per usare un antico detto di questa parte, non siamo né con l'individualismo dei liberali né col collettivismo dei socialisti, ma la società civile al centro, che è indipendente dallo Stato e che deve riportarsi al centro appunto di quello che è la vita politica nel senso più alto del termine. La seconda domanda che ci siamo posti e che proviamo a rispondere con la nostra associazione è: sapete qual è l'ostacolo principale alla vita di una comunità? La risposta che ci siamo dati è la volgarità. La volgarità, che è un concetto molto presente nella nostra città in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, e che è un qualcosa che davvero vorremmo che venisse cancellato e venisse sorpassato da quello che è invece la bellezza. Adesso non per citare sempre gli inglesi quando si parla di bellezza, cito un qualcosa letto oggi sul giornale di oggi, stamattina. Noi siamo abitatori di un mondo, è bello arrivare all'etimo di mondo. Da una parte il latino, mundus, pulito, qualcosa di pulito. Dall'altra parte il greco, cosmos, qualcosa di ordinato, la cosmesi, qualcosa da abbellire. Da qui il vero problema di quello che per noi è della città di Como. Non è un problema etico, non è un problema morale, ma un problema meramente estetico. Come? Cosa facciamo? Ovviamente, perché sennò le parole diventano solo astrattezza e ricercatezza di intellettualismi inutili. Tre R ci siamo dati per questa associazione. Da qui la parola del nostro intervento, stile. Un nuovo stile nella relazione, un nuovo stile nella riflessione e un nuovo stile nella reazione. Nella relazione, lo stile nella relazione, la ricerca di un contatto con realtà virtuose, con personalità da cui imparare e cogliere. Noi la prima cosa che abbiamo fatto come associazione è stata la partecipazione alla Leopolda giù a Firenze. Abbiamo incontrato anche alcuni esponenti del Parlamento italiano. Ringrazio Paolo che ci ha fatto intervenire prima, perché alle 5 abbiamo un incontro con un parlamentare europeo. Tutto aperto ai soci, a chi vuole partecipare a questi nostri incontri. Perché? Per incontrare qualcuno innanzitutto, per portare qualcosa delle nostre idee, dei nostri valori, delle nostre riflessioni, ma per tornare anche con qualcosa, arricchiti, per tornare a casa con qualche bagaglio in più nella relazione. Un nuovo stile nella riflessione invece, e abbiamo aperto dei tavoli all'interno della nostra associazione di studio su due grandi temi, uno ormai in conclusione che è partito con l'inizio della nostra esperienza, che è quello sul codice di Camaldoli, che è un codice che vi invito a riscoprire tutti voi, l'altro sul testo unico degli enti locali, che è un qualcosa molto più tecnico, molto più complesso, che però secondo noi valeva la pena almeno approcciarsi, non dico fare degli studi dettagliati, ma almeno approcciarsi. Questo è lo stile della riflessione, una formazione tecnica e politica, non solo tecnica, non solo politica, cercare un'integrazione. Da qui, relazione, riflessione, decisamente il passo, quello più necessario, che è quello della reazione. Reazione nell'impegno, non nel senso reazionario. Reazione a livello locale, partendo dalla riflessione della relazione, un laboratorio di idee e visione strategica. Da qui abbiamo elaborato un progetto, nell'ultimo minuto, negli ultimi 40 secondi, questa lista nozze che abbiamo lanciato sui giornali locali, che abbiamo lanciato ai vari candidati politici, quelli che già si sanno e quelli che ancora non si sanno, ma dietro ci sono, ai cittadini. Abbiamo avuto una bella risposta, stiamo raccogliendo delle idee su come intervenire nell'arredo urbano, dei progetti, in quello che sarà la futura campagna elettorale, e se i candidati politici, consiglieri, sindaci non aderiranno a questa iniziativa, ci sarà comunque un pacchetto che pensiamo di presentare, di proporre al sindaco, quello che sarà, con delle belle cose da fare. Grazie. Adesso vediamo un cortometraggio che parla sulla parte di Como, sempre di Stefano Novati, Dario Fiocchi. dei mani di per sé, si parla di via Milano, della via Milano alta e di quello che è il processo di integrazione che è in atto. E poi si prepara uscire. Familiare, per questo qua è venuto. 93 sono 2010, sono qua. Non è andato 3 sera parti. Io sono 18 anni, sono qua. Mai non andato in Turchia, è andato 4-5 volte. A più di italiana, perché adesso io sono 18 anni, sono qua. Più di mia vita è passata qua. A parte quando è piccolo, metà della scuola è andato, metà è andato a stare qui, imparare questo lavoro qua. Per questo qua, uomo, aperto in questo salto qua, sono 2 anni. Io ho 2 figli nati qua. Una 6 anni, una 5 anni, anche loro sono con Masco, c'è certo che il bacio è un'altra cosa, adesso io vivo a Como, mia città, io sono a metà con Masco. Non può cucire, non si può andare avanti così. Non c'è, diciamo, una buona convivenza con i nostri amici turchi, tutti gli stranieri. Io sono contento di avere un vicino che è un sarto. Cambiano le genti, ma i modi di vivere sono felici. Qualcuno dicono sceriffo. Mio nome vuol dire speranza. Omid vuol dire speranza in italiano. Lei è mia moglie, ma ancora non abbiamo figli. La speriamo per prossimo. Dammi la metà. Mio nome è Mario. Però alla fine dice qui il 28 marzo del 1863 ebbe i natali umili davanti agli uomini gloriosi davanti a Dio, servo di Dio, padre Cesare Barzani, Barnabita. Poi dice che per oltre 50 anni nella città di Lodi fu di luce cristiana faro luminoso. Chi avrebbe immaginato che 100 anni dopo sotto quella lapide ci sarebbe stato tutto questo? Pakistan, direttamente qua a questo negozio e contratto, Farusi 2007, proprietario mio nipote, io solo lavorato quasi 3 anni lavoro qua. Come mai siete venuti via dal Pakistan? Lavoro? Solo lavoro, sì. E per lavoro? E cioè, lavoro, lì c'è Pakistan per poco, non è abbastanza per noi. Strada molto più comasca di tanti altri, di tante altre, ma che a differenza di tante altre ha tante storie da raccontarci. Io sono a Como da questo negozio da 8 anni. Sì. Questa macelleria forse 12 anni. 12 anni qua. La prima macelleria qua islamica, sì. Già sono io un figlio di macellaio, già il mio nonno, mio padre sono macellaio in Marocco. Marocco a Casablanca, ho trovato l'Italia più un paese più bello, per cui è rimasto qua. Io sono sposato, mia moglie qua, 2 bimbi, già con maschi, uno ha 12 anni, la bimba ha 4 anni e mezzo. Questo è mio figlio, si chiama Larbi, e gioca con questa squadra, Ardita Como. Io vicino. Sono tante storie che ognuno di noi racconta, ogni persona che ha un'attività ha un suo passato e quindi ha modo di raccontare tutto ciò che appartiene alla sua umanità. Ho finito il liceo a Tirana, poi sono partita con mio zio, fratello di mio papà, abbiamo preso la nave, eravamo immigrati irregolari con dei visti e dei permessi di soggiorno, sbarcammo a Trieste. Bellissima Trieste di notte, mi fece un'impressione pazzesca, soprattutto le mura del porto, sembrava entrare in un castello. E poi sono arrivati i cani. Mi chiamo Ermelinda, ho 30 anni e faccio l'attrice. Il mio rapporto con l'Italia, strano, difficile, complesso. Di amore e odio, di odio e amore, diciamo che è la mia seconda patria, sono figlia adottiva contro la sua volontà. Regionale, animatore di molte cose, tra cui appunto prossima fermata a Como, io prossima fermata Italia e altre cose che racconterà. Ora nel frattempo chiamo sul palco, chiamo a sedersi in panchina André Cesario e Marco Longatti, che saranno i due interventi successivi. Dico. Voglio innanzitutto ringraziarvi perché questa è l'iniziativa più ecosostenibile del mondo. Noi abbiamo l'effetto serra, siamo almeno 5, e questo invita ad essere più sintetici, più efficaci e più risolutivi nelle proprie perorazioni. Vi ringrazio per i contributi. Grazie. grandissima qualità. Mi pare però che la parola che sceglierei e che vi proporrei, che proporrei al vostro candidato sindaco, sia Mario, perché è di moda il nome, funziona a livello italiano europeo, che è la parola barriera. Quando sono arrivato non si riusciva a far entrare una persona in questo stabile perché c'era una barriera architettonica. Il primo messaggio di un'amministrazione di civiltà, diciamo, nuova, deve affermare quello di cancellare le barriere architettoniche e i limiti e gli ostacoli che sono frapposti alla fruibilità di una città da parte delle persone che sono meno avvantaggiate dal punto di vista motorio. Lo dico perché sono da queste piccole cose che si vede anche una matrice culturale diversa. E poi le barriere sono quelle che ci siamo raccontati, che abbiamo visto negli interventi precedenti. Ci sono mille barriere costruite da una politica in alcuni casi di basso profilo, in altri casi letteralmente indecente, come abbiamo raccontato il rapporto tra italiani e stranieri, come abbiamo raccontato il rapporto tra giovani e anziani. Anche questo dibattito sulla riforma del mercato del lavoro vive di contrapposizioni spesso molto interessate, mentre noi dobbiamo cercare di risolverle. Le barriere sono le barriere linguistiche. Abbiamo visto un albanese che parla in italiano meglio di me, e quindi dimostra forse che si può anche cambiare, trovare un percorso comune in una nazione come la nostra, che era storicamente la nazione dell'incontro, che aveva nella sua identità l'idea di costruire relazioni e che forse, grazie ad alcuni signori che hanno governato questo paese a lungo, tutta questa percezione dell'incontro e della relazione si è perduta. Io credo che noi dobbiamo ripartire da questi fondamentali e dobbiamo farlo per superare la barriera che sembra invincibile, soprattutto a livello nazionale, che è quella tra partiti, tra la politica, diciamo, istituzionale e i cittadini. Noi dobbiamo costruire occasioni di partecipazione. Voi avete già fatto le primarie e vi assicuro che il candidato sindaco che esce dalle primarie più forte lo sono anche quelli sconfitti nelle primarie. Lo dico non per dare una seconda possibilità, ma per dire che tutte le occasioni di partecipazione devono essere le benvenute. Come l'insegnamento di Alessandro Campi rispetto agli open data, la cultura della trasparenza, la ricerca di un consenso informato, però non di una partecipazione leggera, veloce, che spesso poi è un alibi per decidere in tre lo stesso, tipo una grande assemblea e poi si ritrova nel retro a stabilire come devono andare le cose. Io credo che questo sia il tema più forte. Con Luca Gaffori siamo impegnati in una battaglia contro un potere che è stato pervasivo in questi anni, che sembra un po' tramontare ma che resisterà con tutte le proprie residue forze, e anche questo è un messaggio che da Como deve pervenire fortemente. La buona politica, la politica di qualità, come ha detto prima Mario, deve servire per dare un messaggio anche a livello regionale. Insomma, le amministrative di questa primavera sono fondamentali sia per gli assetti politici, per le alleanze, per le formule che ci ritroveremo nel 2013, ma evidentemente anche per spiegare che c'è una Lombardia diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati. Ecco, superare le barriere vuol dire costruire occasioni come queste e farlo con un po' di coraggio, però, perché non dobbiamo avere tabù, non dobbiamo avere pregiudizi, dobbiamo costruire un partito democratico. Questo è l'ultima cosa che dico, che sia davvero anche a sua volta un luogo dell'incontro e del pluralismo, in cui le diverse voci si possono incontrare, anche scontrare. C'è un sacco di gente che si offende, che ci rimane male, invece bisogna dirsi le cose con grande sincerità, con grande chiarezza e con grande puntualità. Questo è il nostro percorso, è un percorso fatto di proposte che trovate sui siti, c'è un prossimo fermata como.it, c'è un prossimo Italia su internet, abbiamo la maggioranza assoluta, diciamo non abbiamo problemi, perché in realtà si fa un po' più fatica nella realtà normale, però tutte queste proposte stanno proprio a significare che il superamento di quelle barriere è possibile sul mercato del lavoro, sulla riforma fiscale, sull'utilizzo delle tecnologie. Ho visto un bel contributo sulle città intelligenti, sulla possibilità cioè di cambiare questo paese partendo dalle sue strutture fondamentali. Se la politica si fa così, appassiona e cambia le cose. Insomma, questa è l'idea banalissima, ma secondo me efficace e molto producente, che abbiamo messo in campo. Le immagini di Firenze sono quelle di 2 anni fa, di una grande assemblea. Ce n'è stata poi un'altra a Bologna in questo autunno, in una grande piazza, in cui appunto la barriera da superare era tra società civile e politica. Qualcuno ne ha parlato, si è scusato per essere cattolico, ma non deve scusarsi nessuno. Il bello è che qui siamo tutti benvenuti, è il messaggio di Prossima Italia. Grazie. poi mandare vai. La parola di oggi per noi è donne, quindi è una parola importante che riguarda la metà della popolazione. Il 13 febbraio del 2011, a seguito di una grande manifestazione popolare, nata in Italia una rete molto estesa di donne che ha preso il nome di Senora Quando. Questo movimento popolare, che raccoglie persone di differenti orientamenti politici, culturali e religiosi, si è formato intorno alla richiesta pressante di una nuova dignità nazionale delle donne italiane. Dignità della rappresentazione delle ricche e diverse identità femminili e dignità nella vita reale, che vuol dire opportunità e libertà di lavoro, di scelta della maternità, attualmente così difficile per le giovani donne, di presenza nei luoghi delle decisioni politiche, economiche e sociali. Ad un anno del 13 febbraio, il coordinamento provinciale delle donne del PD ha deciso di ricordare l'anniversario, che mancano comunque solo due giorni, con un contributo. Queste righe sono per quelle donne che non hanno ancora smesso di lottare, per chi crede che c'è ancora altro da cambiare, che le conquiste non siano ancora sufficienti. Ma le dedichiamo soprattutto a chi non ci crede, a coloro i quali pensano ancora che il femminismo sia l'estremo opposto del maschilismo. Non risulta infatti da nessuna parte che quest'ultimo, il maschilismo, sia mai stato un movimento culturale, né tantomeno una forma di emancipazione. Cominciando con le battaglie inglesi delle suffragette del primo Novecento, passando per gli anni 60 e 70, epoca dei femminismi, abbiamo conquistato con le unghie e con i denti molti diritti civili che ci hanno permesso di passare da una condizione di eterna minorenne sotto tutela ad una forma di autodeterminazione sempre più definita. Abbiamo ottenuto di votare, solo molto tempo dopo, di avere alcune rappresentanze nelle cariche governative. Siamo state tutelate prima come lavoratrici madri e solo dopo come cittadine. Mentre gli altri parlavano di diritto alla vita e di lavori morali, abbiamo invocato il diritto a decidere della sessualità dei nostri corpi. Abbiamo denunciato qualsiasi forma di patriarcato, le sue leggi, le sue immagini. Pensavamo di aver finito, ma non è finita. Abbiamo grandi debiti con le donne che ci hanno preceduto, ma il traguardo dell'uguaglianza sostanziale e delle pari opportunità reali è ancora lontano. Si pensi solo a titolo di esempio alla perdurante violabilità del corpo femminile nell'immaginario e nella pratica sociale di molti uomini e alla cosa apparentemente ineffabile che è la lingua con cui parliamo, quel tradimento linguistico che ogni donna registra tutte le volte che 100 donne e un ragazzo sono per esempio andati al mare. Tutto molto spesso inizia nell'educazione giovanile, in cui è facile rilevare la disuguaglianza tra bambino e bambina. Diversi giochi, la partecipazione ai lavori casalinghi, le ore permesse fuori di casa. Tutto viene fatto per condizionare le ragazze all'interno e i ragazzi all'esterno. Pensiamo poi ai problemi sul lavoro, e dunque i datori di lavoro che temono le assenze, i congedi per maternità, le malattie dei figli e dei congiuntivari. Così che le donne spesso scelgono un impiego a tempo parziale penalizzando la propria carriera. Un altro problema è quello delle violenze, specie in famiglia. Infatti, malgrado i risultati ottenuti ancora nel 2005, una donna violentata avrà avuto le sue colpe se ne cercava. Pensiamo ad esempio anche alle pubblicità sessiste che incitano allo stupro, pornografie e immagini che banalizzano le violenze alle donne. Per non parlare di quanto il patriarcato resti ancora profondamente radicato nella sfera pubblica, nella forma stessa dello Stato. Uno Stato si racconta attraverso le sue leggi, attraverso i suoi luoghi simbolici e di potere. Il nostro Stato racconta quasi di soli uomini e non racconta la verità. Da nessuna parte viene nominata la presenza necessaria femminile e questo è probabilmente l'effetto di una falsa buona idea. Le donne e gli uomini sono uguali, per cui è perfettamente indifferente che governare sia un uomo o una donna. Ecco il perché di un'eclatante assenza delle donne nei luoghi di potere. Ci siamo fatti imbrogliare ancora, ma un paese di libere donne e uomini liberi può essere governato e giudicato da soli uomini? Sicuramente no. Donne e uomini sono diversi per biologia, per storia e per esperienza. Dobbiamo dunque trovare il modo di pensare un'eguaglianza che sia causa delle differenze dei corpi, delle culture, ma che eguaglianza sia comunque, tenendo presente l'orizzonte dei diritti universali e valorizzandone l'altra faccia. Ricordando ad esempio che la famiglia non ha alcuna forza esterna e che è retta dal desiderio anche femminile, dal grande sforzo delle donne di organizzarla e mantenerla in vita, attraverso una rete di relazioni parentali, mercenarie, amicali, ancora quasi del tutto femminili. Ricordando che l'autodeterminazione, la sessualità e la maternità sono ovunque le uniche vie idonee alla tutela delle relazioni familiari, di fatto di diritto che siano. Ricordando che le donne sono ovviamente persone di sesso femminile prima ancora di essere mogli, madri, sorelle, e quindi che nessuna donna può essere proprietà o prestaggio di un uomo, di uno Stato, né tantomeno di una religione. Sei sicuro? Senti, come re, sono porci questi domani. Sì. Se vuoi entrare nell'FPG, li devi odiare sul serio. I romani li odio. Eh sì, e quello? Un sacco. Senti, le sole persone che odiamo più dei romani sono quegli stronzi del fronte popolare giudeo. Quelli del fronte giudeo del popolo. Pensiero razionalista, per esempio, di Terragni, costruire una casa del fascio fuori dalle mura, a spostare completamente un baricentro della città alle spalle del Duomo e del Troletto, che costruirono un asse che evidentemente non siamo ancora riusciti in qualche maniera a sbilanciare. Troppo forte è sempre stata, secondo me, in questa città la comunione di Duomo e Troletto. Oppure la visione incredibile che riconnette Camerlata al lago con la terza torre del Monumento ai Caduti. Vedete questa sequenza, no? Che secondo me è lampante, no? di Camerlata, del Paradello, di Porta Torre e del Monumento ai Caduti all'Arco. Ecco, io credo che forse dovremmo provare qualche inversione di questo tipo del nostro pensiero, cioè provare a pensare che se ci hanno spostato, contro probabilmente le volontà di molti di quelli che sono qui, l'ospedale in mezzo alla pianura, che sempre ha indicato i limiti della città, ecco, forse dovremmo provare a vedere la città nel suo insieme, vedere che è Camerlata, che è veramente il centro, che è Como, che ha bisogno di essere riconnessa a Camerlata, che tutti noi abbiamo bisogno di riconnettere situazioni e cose, persone, orizzontalmente contro i muri. Bisogna farlo in una maniera che io credo che stia già avvenendo in realtà in questo periodo qua, in questi giorni. Queste cose che sto dicendo sono cose che stiamo discutendo all'interno dei gruppi di lavoro per la formazione del programma di Lucini, e io credo che forse sì, piano piano si può ricominciare a far fluire quello che è caduto. La parola, grazie Marco, la parola a Ida Sala dell'Associazione Vita Indipendente. Il microfono è ok. Sì, la mia parola di oggi è vita indipendente, che non vuol dire l'arte di arrangiarsi, ma significa autodeterminazione, uguaglianza, libertà delle persone con disabilità. Oggi va molto di moda parlare di farsi invalidi, e questa cosa è piuttosto inquietante perché sta mettendo in difficoltà i disabili veri. Così ho sentito il bisogno di scrivere una lettera aperta alla ministra Fornero, che adesso, di cui vi leggerò un piano la mia amica, prego. Leggo solo la lettera, poi commento la parete. Ma devo per funzionare questo? Sì, io una bella uovo ci per pensare. Allora, onorevole ministra, mi ricordo. Non si sente. Allora, dimmi come devo fare. Vicino. Onorevole ministra, mi rivolgo a lei da donna a donna, sapendo che le sta a cuore la valorizzazione di ognuna di noi. Vivo una vita normale, quella che ho voluto, cerco di seguire una mia linea di condotta, curo la mia persona, leggo, mi tengo informata. Non sono sposata, non ho figli, ho 57 anni, ho collezionato la mia dose di successi sentimentali, ma continuo a tessere il mio mondo di relazioni e affetti con il solo dispiacere di non poter stare più vicino a mia madre, soprattutto ora che ne avrebbe bisogno, per una questione di chilometri e di organizzazione. Conduco normali rapporti di vicinato, mi occupo della mia casa, cerco di limitare consumi e rifiuti, faccio una buona raccolta differenziata, sebbene il mio comune dimostri scarso interesse in materia. Compro al discount, vesto con l'usato, ho tagliato per risparmiare su cinema, ristoranti, bar, gite e vacanze. Pago i tributi, chiedo sempre, o quasi, lo scontrino fiscale. Pratico da anni una vita associativa ormai indispensabile. Enile Italia è il nome dell'associazione a cui aderisco. Partecipo un po' alla politica locale e svolgo qualche ora di volontariato. Un brutto termine per dire che compartisco un po' del mio italiano con degli amici immigrati. Ho un diploma di istituto magistrale. Dei miei vani tentativi di lavorare preferisco tacere perché occorrerebbe un capitolo apposito. È evidente che non sono in cerca di elogi, vorrei soltanto mostrarle alcune delle banali ma necessarie azioni che mi posso permettere solo perché posso contare su una precondizione fondamentale: avere alle mie dipendenze 3 assistenti personali, una convivente e 2 che si alternano nei fine settimana, che ogni giorno mi alzano, mi coricano, mi preparano per uscire, mi accompagnano e mi assistono, anche di notte, ovunque io sia, in base a necessità da me espresse e secondo le procedure che ho loro insegnato. Sono infatti affetta da una malattia generativa che mi ha reso pressoché inutilizzabili gambe e braccia. Ho compromesso i muscoli del tronco, del collo e della respirazione e più di recente avverto un po' di difficoltà nella masticazione e nella deglutizione. Fa più pressione dirlo che sperimentarlo, ma non sto cercando di impressionarla, cerco piuttosto di aiutarla a capire che con gli aiuti giusti una donna come me può vivere una vita dignitosa. Mi commuove, e sì che ti conosco da 40 anni, piacevole e stimolante nonostante la disabilità, o meglio partire da essa. L'impianto di assistenza personale autogestita, cui ho accennato, è finalizzato, tecnicamente parlando, alla realizzazione del mio progetto di vita indipendente, in base alla legge 162 del 98. È costato alla collettività nel 2011 più di 34.000 euro, anche se non dovrei pubblicarlo per non scatenare nel comasco inutili guerre fratricide. Adesso avanti lei a parlare, no? Giusto? Ti devo dire? Sì, io ho la paglia questa. Allora poi la lettera va avanti dicendo che tutto quello che ho descritto all'inizio non sarebbe possibile se vivessi in un istituto dove finisce gran parte delle persone con problemi simili ai miei, e non sarebbe possibile se vivessi a casa con poche ore di assistenza domiciliare. Poi ho voluto anche mostrare che, visto da un altro versante del femminile, cioè quello delle mie assistenti personali, alcune di loro hanno potuto superare un momento di grave crisi economica. Dopo che il marito di una di esse è rimasto disoccupato, e ho anche voluto mostrare che in una miglia dove c'è una persona con disabilità che gode di questo aiuto, le donne, ma anche gli uomini di quella stessa famiglia, possono recuperare degli spazi di libertà loro personali per poter intraprendere attività lavorative, culturali, relazionali, eccetera. Tutto questo è previsto nella nostra Costituzione. E se io non potessi avere questi aiuti, questo aiuto, questo finanziamento, molti dei miei diritti inviolabili non li avrei potuti esplicitare. Oggi non potrei essere qui, per esempio. Ecco, allora niente, vorrei che Como, che è stata all'avanguardia rispetto all'applicazione di questa legge, continuasse ad esserlo, aumentando il budget, anche se lo so che non ci sono i soldi, però preferirei una città con le pezze al culo, ma con certi diritti fondamentali rispettati. Diceva la signora, poi chi vuole avere una lettera completa di Ida Sala, se lascia l'email a lei e la mandiamo. Però volevo spiegare in antefatto perché Ida ha scritto questa lettera, perché c'è un problema che è stato inserito una norma all'interno del Salva Italia di Monti, giusto, che sta causando dei problemi proprio alle persone come lei. Adesso io il problema tecnicamente non lo so, magari lei ci dice due parole, ma loro stanno lottando contro questo problema proprio. Praticamente vogliono calcolare l'ISE, intanto l'assegno l'indennità di accompagnamento, che è un assegno mensile che viene dato al solo titolo della disabilità. Allora infatti nella lettera io faccio presente che la disabilità è uno svantaggio, non è una fonte di reddito. E poi, quindi non va calcolato come un reddito, ma come qualcosa che aiuta chi ha uno svantaggio a portarsi alla pari degli altri. E vogliono fare questo con l'assegno d'accompagnamento, ma anche con altri benefici di cui godiamo, per esempio quello di cui vi parlavo, cioè quello per la vita indipendente. Quindi, siccome, come vi ho detto, io il mio progetto è costato 34.000 euro, risulterei ricca. In realtà io questi soldi li uso per pagare gli stipendi dei miei assistenti. La tredicesima, ma il TFR, cioè queste cose. E a questo va aggiunto anche che hanno tagliato i fondi del sociale e quindi danno meno soldi rispetto al fabbisogno. Tutto questo insieme è proprio una bomba, che per cui non è gestibile. Penso che a Como presto, sto maturando l'idea di coinvolgere altre persone come me per organizzare una manifestazione, qualcosa di forte, perché diversamente, non so, ci consegniamo tutti a, non so, al comune e a vendere quel che volete, perché va bene, non so, va bene. Grazie Ida. Avete capito che non andiamo di grande coraggio, Ida. Devo ricordare che all'ingresso abbiamo una cassa offerta, non abbiamo chiesto dietro a nessuno, come se nel teatro, quindi chi volesse prima di uscire offrire qualcosa per la gestione della sala e della giornata, siamo ben felici. E adesso vorremmo dare la parola, e non solo la parola, anche la chitarra, ad Andrea Berardi, che però è conosciuto meglio come... è di Jonathan Kessler e ci racconterà in un modo diverso e alternativo quello che è stato un pezzo della città. Scusa, hai sbagliato a dire nome e cognome, adesso mi arrestano. Sono Andy Jonathan Fender. Della bicicletta con la mascherina, mi vedete in giro ogni tanto con la pulisco il microfono che devo aspetto con l'alcol, sono un igienista, ok. Niente, anch'io uso la bicicletta che non ho la macchina, infatti è una bicicletta fondamentale che ho combattuto per farci con le biciclette, ma non è questo l'argomento, l'argomento è una sala prove che avevamo nel 97 e anch'io sono stato conosciuto da lì, ho debuttato lì come rockstar passando dal Rock Club 52, storica sala prove di Piazza Roma, e anch'io ho combattuto dopo che hanno chiuso il Rock Club per dare uno spazio ai giovani, ho fatto come Che Guevara, ho combattuto tutte le mie armi contro quel muro impalicabile. '97, c'era una volta il Rock Club 52. In Piazza Roma 52 a Como vi fu una sala prove per tutti i Como City Punkers, il Rock Club 52. Era gestito dall'ACI, allora pianterreno del Rock Club, col nome di Box 202. Quando entrai al Rock Club con una semplice chitarra acustica, ero ancora uno sfigatello. Feci intrattenimento nella sala d'attesa con tutti i giovani che mi fecero il cerchio per ascoltare le mie canzonette. Era un pretesto per farmi conoscere, a tal punto che i Succo Marcio mi scoprirono e si unirono a me per formare i Black Rats. Ma io, per farmi pubblicità, rompevo i maroni a tutti. Se n'è andato e mai più tornerà. Quei disegni sul muro mai più io rivedrò, e pensarci non dovrò, quanta gente che non vedrò più, ricordarmi di loro dovrò, perché ora non c'è più quella stanza dove noi parlavamo, questo un sogno non è, siamo finiti in mezzo a una strada, perché sembrava di toccare il cielo con un dito, ma eravamo solo al primo piano del 52 di Piazza Roma. Il Rock Club 52 chiuse definitivamente i battenti. Perché? Resta un mistero. Per me è stato un trauma. un trauma ancora adesso, il ricordo doloroso di quel sogno infranto dalle parrucche bianche politiche di allora, bussa alla mia porta. Finimmo tutti sotto i portici del gazebo di fianco al Duomo, sparì all'Upara Bianca. Per un anno e ritornai. Oggi l'ex Rock Club è un complesso di appartamenti comprati, belle mansarde e affreschi settecenteschi sui soffitti. Era la dimora degli odescalchi, ma ora sono diventato una rockstar di grido. Mi sono permesso di intrufolarmi dentro dove stanno facendo i lavori sabato e la domenica che non c'è nessuno, per visitare il Rock Club e tutte le mansarde e gli appartamenti. Ma ora sono diventato una rockstar di grido, sono già salito al cielo. Il mio viaggio nel futuro continua, ma quale sarà la mia prossima fermata? Non saprei come dirti che mi piaci, tu chi sei, di che cosa parla il libro, dove vai, prossima fermata scenderai. Forse riaprirò lo club in sede, ma stavolta in qualche mansardina. È il mio sogno, perché no? Chissà se un giorno lo realizzerò alla mia prossima fermata. Perché ora non c'è più quella stanza dove noi parlavamo, questo sogno non è. Siamo finiti in mezzo a una strada, perché penso al mio futuro che cosa mai riserverà e per sempre resterà. Sempre nel mio cuore e per sempre resterà, anche se una banca sarà, il suo nome Rock Club per me resterà. Sempre Rock Club, sempre Rock Club resterà. Il Rock Club era nel succo marcio, ma il brano prossima fermata è il mio nuovo singolo CC1, il bus di Sanfermo, che potete ascoltare su YouTube scaricandola, se avete anche la chiavetta per scaricarla su CD, se no compratela. Oggi faccio gli anni, comunque è stato un grande regalo di compleanno per me questo evento. Grazie. Molto fantastico oggi. Un bel però molto bene. Grazie a tutti. Grazie Andy, che ci ha ricordato un problema serio di questa città, la chiusura degli spazi sociali, degli spazi di socializzazione. Una città che costruisce troppo, dove c'è troppo residenziale, anche spesso e volentieri residenziale di alto livello, con poche case per giovani coppie, e quindi un problema serio. Chiamo adesso a parlare la mia amica onorevole Chiara Braga, che ci parlerà di poltrone, perché questa è la sua parola chiave. Parlerò di poltrone, non quelle un po' strette in cui siamo stati seduti oggi. Comincio da qui, ricordando alcuni nomi che hanno fatto la storia recente della nostra città. Francesco Cattaneo, già vicepresidente della provincia di Como, defenestrato nell'autunno 2008 dal presidente Carioni, quello dei 34.000 km in un anno di auto in auto blu, che soprattutto non ci vuole dire dove è andato e su cui è in corso oggi un'indagine della procura, perché accusato di aver ricevuto rimborsi chilometrici inesistenti. Episodio alquanto spiacevole, per il quale, dopo patteggiamento e quindi ammissione di responsabilità, fu condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 30.000 euro, col Francesco Cattaneo promosso per evidenti meriti a vice sindaco del comune di Como, a seguito di un'indimenticabile staffetta con l'allora vice sindaco Mascetti, spedito naturalmente a fare il vicepresidente della provincia. Carriera cittadina breve, quella di Cattaneo, conclusasi nel luglio del 2009 per evitare una sfiducia molto probabile in consiglio comunale. Temporaneamente se ne sono perse le tracce pubbliche, ma i soliti ben informati dicono che conservi ancora qualche poltrona remunerativa del sistema sanitario Reggio Formigoniano, per evidenti meriti si intende. Così come quel Paolo Gatto, l'uomo delle tessere, recordman di preferenze nelle ultime elezioni comunali, prima consigliere comunale, poi ex assessore alla moda e al commercio, anche lui defenestrato in un velenoso impasto del febbraio 2009 e per lungo tempo saldamente ancorato alla poltrona di vicepresidente dell'ADER di Como, Case Popolari. Posizione di grande responsabilità e di utilità soprattutto ai fini elettorali e ora impegnato in un processo che lo vede imputato con l'accusa risalente al tempo dell'assessore di aver impugnato davanti al prefetto alcune multe di suoi clienti entrati illecitamente nella zona traffico limitato della città e di aver fatto figurare che a bordo delle auto vi fosse un disabile titolare di pass. Quando si parlava della sua uscita dalla giunta, l'allora coordinatore provinciale del suo partito Giorgio Pozzi diceva che occorreva prima trovargli una degna collocazione. Poi per stare all'attualità, in fatto di poltrone, possono senz'altro dire la loro anche altri due volti noti della recente amministrazione comunale cittadina, entrambi estromessi dalla giunta e oggi entrambi tentati dalla nuova competizione elettorale alle porte. L'ex assessore all'urbanistica Umberto D'Alessandro, sistemato, così riportavano gli articoli della stampa di allora, a presidenza della multiutility ACSM Agal, la seconda per importanza della Lombardia, e poi l'ex assessore al bilancio Alessandro Colombo, che decise, accettò di fare un passo indietro per andare a fare il presidente di Como Depor. Però, diciamo, lasciamo un attimo da parte la politica, pensiamo ad esempio ai due dirigenti dei lavori pubblici della nostra città, quelli responsabili che si occuparono magistralmente del cantiere delle paratie del relativo muro, che vinsero, diciamo, il premio di migliore performance amministrativa nello scorso anno. Due facce della stessa medaglia che ci raccontano un po' cos'è stata l'amministrazione della nostra città in questi anni. Episodi che ci hanno fatto indignare, magari per lo spazio di una settimana. Io per prima confesso che li avevo quasi rimossi, ci ho messo un po' a ricostruire queste vicende. E lo so che cosa state pensando, cosa stanno pensando molto di voi. Ma scusa, il tuo partito dove comanda non fa la stessa cosa? Dove ha un pezzettino di potere da gestire, non esercita gli stessi metodi? Forse sì, purtroppo, e dico io che è sbagliato uguale, anzi di più, perché noi, a differenza di altri, diciamo che vogliamo sempre premiare il merito e la competenza. Però, siccome a Como noi non comandiamo da tanto tempo, forse stavolta possiamo tornare non a comandare ma a sperare di governare una città che ne ha un grande bisogno, io mi sento di chiedere al primario, Mario Lucini, che quello che hanno fatto gli altri in passato altrove non sia il nostro stesso modo di fare. Alla nostra città serve competenza, serietà, visione, serve poter riacquistare la fiducia in quanti ne assumono il ruolo di guida. È inutile girarci intorno, la politica oggi paga un prezzo pesante, dovuto ai tanti anni di malapolitica e alla distanza spesso abissale tra le responsabilità e i relativi riconoscimenti e i risultati troppe volte deludenti, per usare un eufemismo. I fatti passati recenti e recentissimi, direi, che coinvolgono anche la parte di cui io mi sento con orgoglio di appartenere, accrescono ogni giorno di più la distanza tra i cittadini e i loro rappresentanti, o almeno una parte, quelli che credono che la politica sia ancora la più nobile delle arti e non la peggiore onda di cui uno possa macchiarsi. Occorre trovare in fretta delle risposte, occorre tornare a spiegare in modo chiaro e convincente, sempre che troviamo ancora qualcuno disposto ad ascoltare, i rimedi presi e quelli che si stanno prendendo. Però occorre riconoscere che forse non bastano, perché il segno si è passato da tempo e il terreno da recuperare molto. Quando da bambini litigavamo con i fratelli più piccoli, ci dicevano l'esempio lo devi fare tu, perché sei quello grande. E anche qui le risposte, quelle importanti, devono venire dall'alto. Però noi oggi siamo qui a Como e vogliamo parlare soprattutto di Como. Allora, per provare a ritornare alla parola che ha ispirato il mio intervento, e vi rubo solo un altro minuto, sapendo di fare uno strappo alla regola che non si dovrebbe fare, vorrei che le poltrone che la prossima amministrazione assegnerà a Como e dintorni tornino ad essere non dei parcheggi prestigiosi per i trombati di turno, ma ruoli assegnati davvero in base alla capacità, alla competenza, in modo trasparente e valutabile dai cittadini. Chiediamo che ci sia l'esempio e l'impegno della prossima amministrazione ad adottare albi e regolamenti per le nomine in enti e aziende partecipate, mutuando le buone pratiche di altre città che garantiscano davvero il rispetto di questi principi insieme a quello delle pari opportunità, perché francamente non esiste che non ci sia mai una donna abbastanza brava e competente per stare a pieno titolo seduta su una di quelle poltrone. E se anche al prossimo giro ci toccherà di stare dalla parte sbagliata, siete tutti autorizzati a fare gli scongiuri, facciamo almeno in modo che il nostro modo di operare sia plasticamente diverso dai nostri avversari, facciamo in modo che la nostra voce si alzi sempre forte e chiara nel criticare e contrastare un modo di fare che non è più tollerabile, e facciamo in modo che non capiti più ad esempio di concorrere a formare un consiglio di amministrazione che si deve occupare di una cosa maledettamente seria e complicata come quella legata al governo dell'acqua, dove siede qualcuno che pensa e dice convintamente che l'acqua di falda è quella che viene giù dal tetto. A Como purtroppo anche questo è stato. Alla prossima fermata facciamo in modo che non sia più. Grazie, grazie. Prima di lasciare la parola a Luigi Spagnolo, un breve filmato, molto breve. Parlerà poi Luigi Spagnolo, ricercatore del Politecnico di Milano e successivamente Fiamme Italane di Italia Nostra. Un cane non può mentire. Né può essere sincero. Un cane può aspettare il ritorno del suo padrone. Scusate, ma si è spento qui. Conveniente. Se non va, passiamo subito all'intervento. Passiamo subito all'intervento di Luigi Spagnolo, la cui parola è diversamente. Faccio io la pubblicità. Ah, funziona? Allora, qual è il problema peggiore della diversità? Il problema peggiore della diversità è che ogni diversità è diversa dalle altre. Per cui a me per esempio è capitato di parlare con un disabile che si lasciava andare a commenti sui neger. Quindi un disabile razzista sembra una cosa inconcepibile, eppure succede, anche perché non è che renda migliori essere disabili, per cui può succedere che ci sono disabili che disprezzano gli immigrati. Poi ci sono gli immigrati che condannano i gay che hanno pregiudizi nei confronti dei disabili, o dei terroni, qualche altra categoria così. Diciamo che c'è sempre un nord e un sud del mondo, poveri pinguini che poi prendono tutte le colpe di tutti. Che l'idea è di dare sempre a qualche altra categoria le colpe del nostro sistema. E quello che è il problema è che poi ci sono categorie contro categorie, e adesso abbiamo i falsi invalidi contro altre categorie, abbiamo giovani contro vecchi, quindi i precari contro i garantiti. In realtà dovremmo sforzarci di riconoscere negli altri la diversità uguale, in un certo senso, e capire che la vera cosa per cui bisogna tutti combattere sono le pari opportunità. Quindi opportunità è la vera parola d'ordine per una sinistra moderna. Ed è innanzitutto riconoscimento, per esempio riconoscimento degli immigrati che vivono qui, che studiano qui, e parlano italiano meglio di noi e hanno una patria di fatto, però non hanno gli stessi diritti degli italiani con pedigree, insomma. E lo stesso per gli omosessuali, che non possono nemmeno vedere riconosciuta in modo diciamo simbolico con un registro anche comunale la loro unione. E quindi e anche per l'opportunità è una questione anche di vera meritocrazia, perché non ci può essere meritocrazia senza opportunità, altrimenti sono solo chiacchiere, perché è facile essere figli di papà e avere il posto da professore ordinario a 29 anni con due pubblicazioni, ed è facile anche fare l'imprenditrice di successo quando si eredita l'azienda della famiglia, magari la stessa azienda poi ti fa firmare alle lavoratrici donne, fa firmare le lettere di dimissione in banco. E tra l'altro opportunità è anche la possibilità di muoversi, e qui abbiamo un esempio che è quello delle barriere architettoniche. Questa sala è una specie di inno alle barriere architettoniche, ecco. E opportunità e non è le grandi opere, ma appunto la mobilità quotidiana, non solo dei disabili, che hanno diritto a vivere la loro vita e anche ad essere produttivi grazie alla possibilità di muoversi e di spostarsi. Ma vale per tutti, vale per i treni, per i pendolari e per le altre cose. E ovviamente l'opportunità è lo stato sociale, quindi è una sfida da rilanciare, e perché su questo si basa ogni idea di civiltà e di progresso. Quindi non è lo stato sociale, non deve essere inteso come quella che insomma una sorta di carità cristiana, e purtroppo il nostro modello di stato sociale è uno stato sociale sempre compassionevole, ma è appunto uno stato sociale che mette tutti in grado di poter vivere, di poter avere un lavoro dignitoso e che possibilmente sia anche leggermente restituito in modo umano. E per esempio un tassello, un'idea forse utopistica, era quella di un servizio civile obbligatorio che sia aperto a tutti, quindi anche ai, tra virgolette, militesenti, quindi anche alle donne o ai disabili stessi, e che fosse concepito, ma è sempre finito. Concepito in modo flessibile, che fosse un arricchimento sia per chi riceve e chi produce, magari chi produce possa essere anche un disabile che di solito è oggetto di assistenza e diventare soggetto. E penso anche a un sistema che consenta, ad esempio, di una sorta di banca del tempo, per cui anche non so, ingegneri informatici che si preoccupano di insegnare l'informatica, di superare il digital divide nei piccoli comuni, oppure avvocati che che prestino assistenza legale gratuita e attraverso un servizio civile obbligatorio, perché purtroppo serve rompere le pigrizie, così come c'è la scuola dell'obbligo, dovremmo essere tutti obbligati a occuparci, al di là delle logiche di sprofitto della società in cui siamo. E quindi la società è, diciamo che il mondo è fatto a scale, però visto anche quello di oggi è meglio metterci una bella rampa. Grazie. Fiammetta Lang, dell'Associazione Nazionale Italia Nostra, che è la più vecchia associazione di tutela italiana. Naturalmente la mia parola è parco e parto dall'articolo 9 della Costituzione, che dice: la Repubblica tutela il patrimonio storico, artistico e naturale, cioè tutela il paesaggio, favorisce la ricerca tecnica e scientifica, da cui discende il codice dei beni culturali e del paesaggio. Il discorso che vorrei fare parte da prossima fermata Como e da un discorso che abbiamo accennato con un gruppo quest'estate. Dalla stazione San Giovanni parte un sedime che apparentemente dovrebbe essere dismesso dalle ferrovie e arriva alla Divosa. La mia proposta è quella di un parco urbano che raccolga questo discorso, ma soprattutto un parco sulla Ticosa. Manca il verde a Como, manca il parco nella zona, ci sono degli striminziti pezzettini di verdolino che dovrebbe essere un parco, ma in realtà la zona della Ticosa si presterebbe moltissimo, anche perché riprende un vecchio progetto, non tanto vecchio, di Antonio Ratti, che collegava la Spina Verde con la zona della Ticosa e in questo caso anche col sedime che parte dalla stazione San Giovanni e che presenta una serie di strutture che potrebbero essere, per esempio, facendo il caso precedente, una sede per i giovani, un discorso di musica, una biblioteca di quartiere, per esempio. Conseguenza di questo parco è l'altro parco, che è la zona Leclerc. Anche la zona Leclerc a Monte Olimpino non c'è un parco, potrebbe essere benissimo recuperata da tutti i punti di vista, dal punto di vista della gente, della qualità della vita, del verde, di una città un po' più giardino di questa porcheria che ci ritroviamo a disposizione. È chiaro che un progetto di questo genere non si risolve in un anno, ma l'impostazione della nuova amministrazione potrebbe essere questo, perché il PGT, che si spera non sia approvato, non contempla questo discorso, o perlomeno lo contempla molto male e in maniera molto sfuggente, e mi sembra che sul verde urbano non si consideri nulla. E io, come conseguenza di questo discorso, c'è che bisogna avere una conoscenza per una tutela, per una gestione e per una fruizione di un contesto. Finisco con due citazioni. Una è un proverbio cinese che dice: una quercia che cade fa molto rumore, ma una grande foresta cresce in silenzio. E poi, 2000 anni fa, un signore che si chiamava Seneca aveva detto: solo colui che si indigna è capace di speranza. Grazie. Adesso può invitare sul palco Anna, che è la regista del cortometraggio che andremo a vedere. Si se magari vuole presentarlo lei, è una cosa giusta, perché questo, noi abbiamo dato questo spazio soprattutto per esprimere quello che è la Como nelle sue molteplicità, che di Como è anche chi abita Como, o chi ha vissuto Como durante gli anni scorsi. Però adesso magari vediamo da... Sì, grazie. Allora, sì, innanzitutto questo è un cortometraggio molto semplice, un cortometraggio indipendente, è stato promosso a suo tempo da YouTube. Era stata una campagna pensata proprio per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. È un tema purtroppo sempre attuale, penso che insomma siamo tutti a conoscenza. Quindi questo è stato un cortometraggio indipendente, girato con mezzi molto semplici in un paio di giorni con l'aiuto di alcuni amici, quindi siamo riusciti a girarlo abbastanza velocemente, ed è stato abbastanza particolare perché anche dopo averlo girato, l'ho girato un paio di anni fa appunto, è rimasto abbastanza indipendente, quindi vive di vita propria, ogni tanto anche associazioni che si occupano appunto di violenza sulle donne riescono a farlo girare abbastanza, insomma un piccolo contributo alla causa, purtroppo questo tema sempre attuale. Quindi questo è il cortometraggio, è stato girato vicino a Como un paio d'anni fa, sempre con persone del luogo, quindi voglio dire un piccolo contributo alla cosa, spero che vi piaccia. Dopo un corso si prepara anche a Veletti, va in Como. Ciao. touch myself again and I'll drown my hopes again. Ma questo non basta a spiegare le diversità sociali che cambiano col tempo e che variano all'interno delle singole culture. In questa prospettiva, il maschile e il femminile vanno intesi come risultante di un complesso di modelli culturali e sociali che caratterizzano ciascuno dei due sessi e ne condizionano il ruolo e il comportamento. Ogni società definisce quali valori attribuire alle varie identità di genere, in che cosa consiste essere uomo e essere donna. Parlare di genere significa quindi parlare di tante cose diverse, parlare di uguaglianza e di differenza, di sessualità e di riproduzione, di maternità e di paternità. Significa parlare di diritti e di discriminazione, di parità e di pari opportunità, di lavoro e di conciliazione, parlare di stereotipi, di segregazione, di violenza e di molto altro. La parola genere, derivante dall'inglese gender, termine adottato nei primi anni 70 dal femminismo anglosassone e successivamente esteso al resto del mondo, è stato oggetto di ampio dibattito e di discussione in tutti i paesi, anche in Italia, dove però ha fatto particolarmente fatica a diffondersi nel linguaggio comune per le implicazioni ideologiche che la connotano e che si scontrano con un diffuso retaggio culturale di impronta cattolica. In questa sede comunque non è tanto interessante sottolineare la battaglia ideologica quanto lo stretto legame tra la parola genere e i principi di non discriminazione, tra donne e uomini ma non solo, principi di non discriminazione e di pari opportunità che caratterizzano l'impegno dell'Associazione Paricomo sul territorio. L'Associazione Paricomo nasce nel 2007 per iniziativa di un piccolo gruppo di donne comaschi, amiche già da tempo, impegnate su tematiche sociali. Avevamo il desiderio di proporre, di realizzare iniziative, eventi e progetti, soprattutto nel campo del lavoro e della formazione, rivolte alle donne, ma con una prospettiva di genere. L'approccio di genere, secondo noi, è fondamentale per mettere in evidenza le differenti ricadute per donne e uomini rispetto ad ogni scelta, azione o situazione, in ogni ambito, dal sociale al culturale, politico, economico, eccetera. Adottare questa prospettiva aiuta a comprendere meglio la società in cui viviamo. In questo modo è possibile sviluppare una sensibilità che permette di avvicinare ed accogliere le persone in maniera rispettosa delle diversità, da quelle etniche, razziali a quelle religiose e politiche, dalla disabilità alle differenze intergenerazionali fino all'orientamento sessuale. Fattori già individuati nelle direttive europee sul divieto di discriminazione. La discriminazione può essere perpetrata nei confronti di molte condizioni dell'essere umano, ma una sola può sommare tutte le altre, l'appartenenza di genere. Alcuni spunti di riflessione. Genere violenza. Il rapporto SIDO, Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, evidenzia come l'Italia sia fortemente colpita dal fenomeno della violenza, che rappresenta il fattore più grave da contrastare nella lotta alle discriminazioni di genere nel nostro paese. Genere e linguaggio. Il linguaggio non è neutro, come spesso si crede, ma veicola una precisa connotazione sessuale, quella maschile. Genere ed economia. La divisione sociale dei ruoli per secoli ha attribuito alle donne l'esclusività del lavoro di cura, gratuito, e agli uomini l'impegno del lavoro per il mercato, retribuito. Gli ultimi studi evidenziano come nel calcolo del PIL di una nazione il lavoro di cura rappresenta un fattore significativo nel calcolo della ricchezza che dovrebbe essere riconosciuto. Genere e istruzione. Una più ampia sensibilizzazione sulla consapevolezza della dimensione di genere nella vita di tutte le persone offre una visione culturale arricchente e universale. Su questo dovrebbero essere previsti specifici momenti formativi fin dall'infanzia. Genere e stereotipi. La lotta contro gli stereotipi sessisti nei confronti delle donne, pensiamo alle immagini, ai messaggi pubblicitari per esempio, rappresenta un importante impegno per il raggiungimento delle pari opportunità. Genere e conciliazione. Il difficile equilibrio che le donne devono costruire tra impegni familiari e professionali viene riconosciuto da tutti come un obiettivo fondamentale per favorire lo sviluppo della società e la crescita dell'occupazione, non solo femminile. Genere e politica. L'Italia si caratterizza per la bassa presenza femminile nei luoghi decisionali della politica, a tutti i livelli, collocandosi al penultimo posto in Europa, l'ultima è Malta. Al di là della possibilità di introdurre norme di garanzia per una rappresentanza paritetica, le cosiddette quote rosa, è importante un impegno di tutti e di tutte, non solo dei partiti, per mettere in discussione meccanismi consolidati, aprire spazi per le donne che ancora oggi tendono ad autoescludersi. La prospettiva di genere dovrebbe costituire una visione da adottare nelle politiche pubbliche, rendendo così attuale il concetto di gender mainstreaming, il genere inteso come un fiume che scorre e attraversa tutto, contenuto nella risoluzione della piattaforma di Pechino nel 1995 per risolvere il grave ritardo registrato in molti paesi del mondo rispetto alla conquista di pari opportunità e uguaglianza tra donne e uomini. Per affrontare le complesse sfide di questo periodo storico è importante, secondo noi, che la politica adotti un approccio che declini costantemente, in ogni scelta, in ogni azione politica, la dimensione di genere. Per l'Associazione Paricomo, Benedetta, Carmen, Chiara, Emilia e Paola. Grazie. Grazie a Stefano Binda di prepararsi in panchina e poi... Dato che in tutti i migliori spettacoli delle trasmissioni televisive c'è sempre un collegamento, anche noi abbiamo un collegamento con video, ed è un video del sindaco di Lecco però, che ci ha gentilmente mandato stamattina. Non è possibile venire, si supera. Un saluto cordiale agli amici di prossima fermata di Como, sono Eugenio Briglio, sindaco di Lecco, del PD. Non ho potuto essere presente direttamente, ma ci tenevo a portare il mio contributo a questa importante iniziativa. La parola sulla quale vi vorrei invitare a riflettere è insieme. Lo so che può sembrare una parola così un po' inflazionata, anche un po' dal vago sapore moralistico. Ma io penso che insieme sia oggi più che una scelta, un obbligo per affrontare i tanti temi che la crisi economica, ma anche più in generale la crisi dei partiti, la crisi delle ideologie e la fatica di trovare senso e ragione alle nostre azioni può aiutarci appunto a trovare una via d'uscita. Noi a Lecco 2 anni fa abbiamo cercato di declinare questa parola insieme, innanzitutto con le forze politiche, ma con le forze vive della città quando abbiamo avviato la campagna elettorale. quindi insieme non può essere solo una sommatoria di simboli, di sigle, di liste, ma insieme la capacità genuina di andare anche ad ascoltare il vissuto della città. In campagna elettorale giustamente ci si divide perché non è un momento, come dire, freddo, non è un momento anonimo, è un momento nel quale le idealità, i processi devono anche scontrarsi, devono anche in qualche modo avere quella dialettica importante. Ma anche in campagna elettorale insieme significa lasciare perdere individualismi, faziosità, capacità di guardare un po' oltre le proprie certezze. Spesso si hanno delle certezze, una convinzione troppo esagerata che ci porta anche a escludere i punti di vista degli altri, oppure essere così supponenti di pensare di interpretare noi il pensiero della gente. Noi all'ECO abbiamo cercato di andare 2 anni fa, di andare molto in mezzo alla gente, di dialogare a tutto tondo, di andare soprattutto negli ambienti, chiamiamoli così, ostili. È inutile fare tante riunioni in cui ci si conferma nelle nostre certezze e non avere invece il coraggio di andare in mare aperto a intercettare realmente quelli che sono i bisogni della gente. Quindi una prima declinazione dell'insieme in campagna elettorale è stata questa capacità di apertura. Secondo insieme nel momento del governo, dopo la vittoria, il momento più difficile, il momento che oggi ci vede dopo 2 anni, non ho paura a dirlo, anche nel momento di fatica, in un momento di fatica perché stare insieme dopo aver vinto e affrontare le sfide dell'attualità, la crisi economica che ho già ricordato, il tema anche di una macchina amministrativa ingessata, il tema dei vincoli finanziari, la difficoltà anche di intercettare un giusto rapporto con la società civile che vive oggi anch'essa un momento di fatica. Ma è allora anche in questo momento che la declinazione più istituzionale, meno partitica, deve declinare il termine insieme con una capacità reale di essere attenti a tutti, di ascoltare tutti, di avere anche una attenzione a tutti i cittadini e non solo e non tanto ovviamente ai propri elettori, superare la faziosità che è il male endemico di questo paese, superare il pregiudizio, superare i sensi di appartenenza che creano muri anziché confini da superare. E il terzo e ultimo dato è un insieme a partire, mi permetto di dirlo, da chi fa più fatica. Oggi come non mai è estremamente importante che ogni progetto di governo amministrativo sappia fare i conti con le fasce che stanno vivendo maggiormente la crisi. Non è una dimensione, come dire, pauperistica quella che sto dicendo. In queste persone che fanno più fatica ci metto anche il ceto medio, ci metto gli imprenditori che sono in difficoltà, ci metto tutte quelle situazioni che forse negli anni passati non avevano questo momento di incertezza, non l'avevano in maniera così significativa, ma che sono una risorsa fondamentale anche per stare attenti agli ultimi, a chi in maniera anche, ahimè, sovente più stabile e ancora oggi in maniera ancora più drammatica vive momenti di fatica. Questa deve essere la cifra, secondo me, di una campagna elettorale che cerca soprattutto di fare i conti con l'incertezza della gente. E all'incertezza dell'oggi non bisogna, negare un futuro, ma non bisogna nemmeno essere ipocriti o negare quelli che sono anche le criticità che dobbiamo affrontare. Anche nelle amministrazioni locali bisogna essere attenti ai progetti legati più ai nostri figli e ai nostri nipoti che non all'attualità. E anche questo è un modo di voler bene al nostro territorio. E quindi insieme anche agli amici di Como e della provincia, territorio che ha delle sfide comuni insieme a quello di Lecco, pensiamo alla preservazione delle bellezze naturali, alla tutela ambientale, a delle infrastrutture rispettose dell'esigenza di mobilità della gente ma anche del territorio. A un territorio che ha bisogno anche di trovare una sua identità rispetto a Milano, a un territorio che ha delle sfide sull'abitare nuove, inedite. Per tutte queste ragioni però è ancora più importante lavorare insieme. Questo è l'augurio che faccio agli amici di Como. Scusate per qualche inconveniente indipendente dalla nostra. La parola Stefano Binda. parla è muro. Quando su un muro c'è una crepa, è meglio abbatterlo il più presto possibile. Lo afferma un antico proverbio cinese. Oggi questo adagio popolare risuona ancora a Como, provincia spaesata dalla paura dei paesi emergenti e dalle grandi metafore geografiche di una nuova via della seta, di un nuovo centro globale del progresso materiale. Un tempo, costruire mura significava proteggere una città, ma soprattutto donare ad una città il suo proprio limite. Delimitare era un tempo fondare una città, darle una misura, segnare il suo stesso essere al confine con il suo non essere, perché dobbiamo riconoscere ciò che non siamo come parte di ciò che siamo. In questo limite si costruiva l'identità stessa di una comunità civile, di un civile abitare. Ogni giorno ascoltiamo un moderno adagio lombardo e italiano. Non c'è alternativa al governo delle destre, non c'è scampo alla cinta muraria del mercato elettorale della paura, al localismo sterile e senza progetto della Lega, al volgare e sregolato peronismo berlusconiano, alla deformazione clientelare e liberale del concetto di sussidiarietà in questa parte del paese. Ci sono molti che affermano ancora oggi, a Como e in Lombardia, che non ci sarebbe alternativa alle forze che in 30 anni hanno riempito il nord di paure, alle forze che ne hanno coltivato le debolezze per poi lasciarlo con gli stessi problemi che forse un tempo hanno urlato, ma mai responsabilmente risolto. Tutti costoro dovrebbero venire a Como e sentire insieme a noi che non ci può essere alternativa alla costruzione di un'alternativa. Staccarsi dall'insieme, tirare su un muro alla soglia del proprio giardino, cercare la via di una salvezza per i pochi abitanti del villaggio, fuggendo dal mondo e dalla storia. Hanno gettato al vento altri 30 anni, noi non lo faremo. Noi abbiamo una meta, noi abbiamo una rotta, noi aspiriamo ad un orizzonte più ampio del sondaggio, giorno per giorno. Non c'è niente di necessario, niente che non possa essere altrimenti. È tempo di cambiare. Gli investimenti pubblici in infrastrutture, nelle politiche per le imprese e la competitività, per la formazione dei giovani, per il welfare e il lavoro, non potranno più disperdersi né polverizzarsi secondo la logica della clientela politica o del sindacalismo deteriore di territorio. Ci vuole una strategia, ci vuole una governance, una nuova classe dirigente. Sapete, lo dico con mite consapevolezza, sono finiti anche a Como, e se non lo sono li faremo finire noi insieme. I tempi in cui una società presieduta e partecipata dal sindaco prende senza gara appalti da un'altra amministrazione di centrodestra. Se questi sono gli unici vantaggi, a parte i soldi per costruire il muro, di avervi al governo della città, della provincia, della regione, e fino a poco tempo fa al governo del paese, noi diciamo che questi tempi sono finiti. Nel futuro, oltre il muro, ritroveremo forse anche un po' di glorioso passato, di quando Como non era una provincia spaesata, di quando non era una provincia rancorosa, di quando al confine sapeva farsi passaggio verso il mondo, di quando vantava 22 soldati fra i 1000 di Garibaldi e sapeva mettersi al servizio di qualcosa di più grande. Grazie. Se volete stare un po' dentro, perché adesso vorrei lasciare la parola a Leopoldo Caggiano, che è il regista del prossimo corto che andiamo a vedere. È un corto che parla di giovani, di giovani con maschi. Allora, la prima cosa che vorrei dire subito è che io firmo la regia di questo cortometraggio, ne firmo l'idea insieme a Franco Passalacqua, che anche lui è attivissimo a livello culturale qua a Como, ma dietro alle mie spalle, anche se non le vedete, ci sono tantissimi ragazzi, tutti giovanissimi, tutti che sono usciti da me, come dalla scuola di cinema, che scuola di cinema che ci ha sorretto anche in questo progetto, soprattutto a livello logistico e di mezzi. Non ci hanno dato delle gabbie, non ci hanno dato dei limiti, hanno soltanto creduto nel progetto quanto noi. E non parla di giovani comaschi nel sostretto, nel senso che è ambientato a Como, parla di giovani che potrebbero essere di Como, ma come di tutta l'Italia, perché abbiamo trovato nello scrivere questo cortometraggio un motivo importante, il rapporto col lavoro e con il viaggio, indipendentemente dalla politica, dalla cultura, ma parlando proprio delle sensazioni, delle emozioni, prima di tutto, di questi ragazzi. però l'abbiamo voluto fare come commedia, quindi non ridendoci su, ma ridendo insieme a questa situazione in cui purtroppo noi ragazzi ci ritroviamo a non riuscire a credere quasi in niente e a doverci costruire delle fedi da soli, non certo supportati da una classe sia politica che non, che purtroppo ci fa vedere un futuro un po' nero in cui però noi non vogliamo credere. Questa era l'idea che sta dietro a questo cortometraggio ed è ispirato a mia sorella, perché lei è una delle poche persone che io conosco che appunto non ha mai visto niente di nero davanti a sé e ha deciso di proseguire una strada con tutte le difficoltà del caso senza fare l'eroina, semplicemente dicendo a se stessa: io degli obiettivi li raggiungerò indipendentemente da quello che il mondo e le persone possono pormi davanti come ostacoli, perché le barriere si possono superare indipendentemente dall'età e indipendentemente da quello che si è dentro o fuori dalle persone intorno a noi, se ci si crede fino in fondo. E quindi il corto parla di questo, parla di ragazzi che hanno delle idee, hanno degli obiettivi personali e cercano di non fermarsi di fronte alle difficoltà, ma di sfruttare queste difficoltà girandole a proprio favore. Però, cioè, tutto questo è molto serio, il corto è molto meno serio e quindi è niente che la carichiamo di troppi significati. Guardatelo, godetevelo e spero che vi piaccia molto, perché noi ci crediamo molto, 2 anni che ci lavoriamo su, e la cosa più bella è stata ridere mentre lo facevamo, divertirci anche noi, che secondo me è fondamentale quando si fa qualsiasi cosa. Grazie. Yeah. ringraziare la padrona di casa per questa serata e cogliere l'occasione per un grande annuncio. Io e il mio uomo, dopo 5 anni di grande amore, abbiamo deciso di andare a vivere insieme e di fidanzarci! Ed esci biocca. Chi sei di tic tu? Questa è la risposta. Radio Banana. Ah, bello il corpo del grande. Hai girato come o di lavoro? Già, da poco. La scuola di Milano, però tutte le riflessioni sono fatte a conto. La figliocca è quella con i capelli corti, quella era la figlia. Quella è anche minorella. Sembrava le sepprendenti. Sì, aspetta. È l'unica che ho voluto far firmare la liberatoria dal padre. Sì. Anche il Tomai Mosca era la più sexy. Quella dell'ufficio. Andate indietro per sì. Dietro, non possiamo. Di amore? Ecco. Abbiamo deciso di andare a vivere insieme e di fidanzarci! E ora! Capretti sacrificali, altri due babbei. due, ce li ho. Buongiorno amore. Ciao piccolo, come va lì? Sono? Solita mail, colleghi di Osio. Tu che farai oggi? Ma finisco un paio di lavori qui a casa e poi passo in agenzia per iniziare a combinare qualcosa per la nostra casa. Mi scusi solo un attimo. Il capo di guardia è sul ufficio, ora vado a chiamare anche quell'altro idiota. Idiota, che No, state pure in piedi ragazzi. E voi lo sapete di chi è la colpa di tutto ciò? Non lo sapete? Della crisi, la grande crisi, questa crisi che ci ha messi in ginocchio, questa crisi che ci ha fatto capire che viviamo nel rischio. Però noi, la nostra azienda, ha deciso di continuare ad investire su gente come voi due. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di promuovervi. Dopo un'attenta selezione, dopo attenti esami, è inutile che mi faccia finire prima di essere contento, non sa niente. Ecco. Hanno bisogno di voi dall'altra parte. L'altra parte dove c'è la metropolitana che funziona tutta la notte, dove noi italiani siamo considerati un plus. Non avete capito? La nostra filiale di New York ha bisogno di voi. Non rida, cioè non c'è niente da ridere. Però guardate bene, non consideratevi dei cervelli in fuga, piuttosto magari degli migranti. Come fantozzi. Thank you. Bello, tutti gli occhi. Sì, ma sei fuori? Ma come cazzo faccio a dirti sì o di no? Si parte praticamente domani e tu me lo dici così, come se niente fosse, io non avessi un cazzo da fare. Neanche il tempo di ragionarci! Perché ti innervosisci tanto? Ne stiamo parlando, no? Senti, andiamocene perché non voglio fare scenate, va bene? Ma allora fai sul serio? Stai buttando tutto nel cesso? Non lo sto buttando nel cesso. Ti ho chiesto di venire con me. Tu veramente stai mettendo la tua carriera di fronte alla nostra coppia? No. No. Ma non ho intenzione di sprecare questa opportunità. Né per me. E neanche per noi. Se esci da quella porta, tra noi è finita. Posso sposare? Allora non c'è nessun modo per farti restare. Ne abbiamo già parlato. Ci vediamo là. Ma lo sai che non verrò? Io devo partire. Sei una testa di cazzo. Anche tu, no? In sala puoi anche sederti in panchina se vuoi. Ho la chiave di Luca, A Como ci sono 10 fermate. però penso che molti non si accorgono di queste 10 fermate. E l'obiettivo è di arrivare ad altre 10 fermate. 8 di queste fermate sono le fermate dei treni in città di Como. C'è Chiasso, che è proprio sul confine, c'è Como San Giovanni, c'è Albate Camerlata, c'è Como Largo, c'è Como Borghi, c'è Camerlata, c'è Breccia Grandate e poi su una linea dimenticata c'è Albate, sulla linea che va da Como a Lecco. Vi sono poi due fermate, una è quella di Tavernola e l'altra è quella dello scalo di Como Largo. In un caso si parla di treni, nell'altro si parla di battelli. Questa è una città fortunata, perché fortunatamente alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, è stata dotata di due linee ferroviarie in direzione Milano e un'altra linea ferroviaria in direzione Lecco. Un'altra linea negli anni 60 è stata dismessa, che è quella che ci portava verso Varese. Nei prossimi anni avremo la fortuna, da una parte, di essere collegati in 39 minuti a Varese, grazie alla Confederazione Elvetica che chiuderà l'ultimo tratto tra Arcisate e Stabio, e questo permetterà agli studenti dell'Insubria che vogliono fare medicina di arrivare in 39 minuti a Varese, e dall'altra parte avremo la fortuna che poco più a nord di noi verrà aperto al transit. Bene, questa città deve essere capace di intercettare queste opportunità. Gli amministratori che abbiamo attualmente non si sono mai preoccupati di avere queste fortune e di trasformarle in opportunità. Già oggi c'è una linea che da Albate Camerlata entra ogni giorno e da Chiasso entra ogni giorno, ogni quarto d'ora in città, impiegandoci 5 minuti per arrivare a Como San Giovanni. È la linea che collega Albate Camerlata con Bellinzona e che ogni quarto d'ora nelle fasce di punta e ogni mezz'ora nelle fasce di morbida collega appunto queste due realtà, ma che può essere un servizio tranquillamente per la nostra città. Ovviamente non c'è un parcheggio adeguato, salvo quello che è stato creato alla rasa, perché a furia di scherzare siamo riusciti a ottenere questo. Ma dall'altra parte non c'è stata una minima informazione da parte dei cittadini. E non entra un treno qualsiasi, entrano treni comunque della qualità del Tilo. Io penso che questa città debba porsi questo tema, debba porsi il fatto che queste fermate sono un'opportunità per questa città e che se noi riusciamo a far funzionare regolarmente già quello che oggi esiste, questo può essere un'ottima risposta in termini di mobilità per buona parte delle direttrici di questa città. Rimane scoperto la direttrice che da Como va in direzione Lora e poi in direzione Lecco, di probabilmente qualche altra pensata sarà necessario farla. Io penso che questo può dare quella qualità della vita di cui Mario Lucini prima parlava e penso che a noi spetti quello di un impegno comune per Como, un impegno comune che sia nei prossimi 3 mesi, ma poi sia per i prossimi 10 anni, per dare molte opportunità a chi vive oggi e a chi vorrà venire a vivere in questa città. Interazione perché penso che sia qualcosa in più di integrazione, qualcosa in più di accoglimento, di accoglienza, perché penso che interazione sia scambio di azioni. A che cosa mi riferisco? Io sono stato adottato da questa città, come la ragazza che ha parlato prima nel video precedente. Sono stato adottato giovanissimo, perché giovanissimo ho lasciato la mamma e il papà a proposito dei mammoni e dei monotoni, perché ho lasciato la mamma e il papà per un lavoro precario anni fa. E questo è anche uno dei motivi per cui spesso certe battute bisognerebbe evitare di farle, no? Perché ci sono tante storie che possono smentirle facilmente. Sono stato adottato da questa città per venire a fare il maestro. Ebbene, entrando in una scuola primaria di questa città, nel centro di Como, perché parliamo dell'istituto comprensivo di Como Borghi, quello che ha come bacino d'utenza quella via Milano che abbiamo visto nel video di prima, mi sono scontrato, o incontrato anzi, con una realtà che mai avrei potuto immaginare provenendo dal sud, perché ho incontrato 27 bambini, di cui di questi 27 ben 19 avevano origine straniera. E quando dico origine straniera faccio fatica a pronunciarla questo termine, questa terminologia, perché chiamare stranieri quei bambini che erano nati a Como, che avevano fatto la scuola materna e poi la scuola primaria, che parlavano il comasco mentre io non parlavo il comasco, veramente faccio fatica a definirli stranieri. E però quella è la realtà con cui oggi dobbiamo confrontarci, no? Quella è la via Milano che qualcuno prima ha definito ghetto, o qualcuno pensa di definire ghetto, ma che in realtà probabilmente è il nuovo modello di società con cui dovremmo fare conti. Sono i nuovi cittadini comaschi con cui dovremmo fare conti da subito, non da domani. E penso che con queste persone, con questi cittadini, oggi più che mai sia necessario scrivere un patto, e questo è il motivo dell'interazione, perché se io scrivo un patto con questi cittadini vuol dire che a questi cittadini chiedo qualcosa, ma a questi cittadini io qualcosa devo dare, qualcosa devo riconoscere. Io ho imparato ad amarla questa città, ho imparato ad amarla perché mi ha fatto sentire parte del processo produttivo del paese, perché mi ha dato un lavoro, ho pagato le tasse, ho ricevuto dei servizi, così come tanti stranieri fanno ancora oggi. Ho imparato ad amarla perché mi ha permesso di sviluppare quelle che sono le mie passioni, di inseguirle, di raggiungerle. E penso che tutti quelli che siamo qui presenti abbiamo delle passioni, no? Che non è la politica, perché la politica forse è lo strumento per perseguire quelle passioni, ma è la ricerca di una dimensione collettiva, che è una cosa di cui oggi abbiamo veramente bisogno. E quindi ci siamo messi alla ricerca, io personalmente l'ho fatto, e dopo aver fatto il maestro mi ritrovo a fare oggi il sindacalista, no? Il sindacalista della CGIL. Però non voglio parlarvi di articolo 18, perché penso che se ne parli già troppo e se ne parli tra l'altro molto male. Voglio solo raccontarvela con una storia a proposito di come riusciamo ad interagire con chi viene in questa città e diventa un nuovo cittadino, a proposito di come riusciamo ad interagire con le centinaia di migliaia di giovani che oggi fanno fatica a trovare un lavoro. Io penso che dobbiamo avere presente però una storia, che è una storia, è un racconto di Leonardo Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, il suo primo romanzo. Ebbene, c'è una storia divertentissima per certi aspetti, ma drammatica per altri, ed è quella di un politico che si ritrova in un circolo di minatori, nella piscina di Rocalmuto, dove c'erano le miniere di zolfo. I minatori raccontano della miseria e delle condizioni di lavoro, di sfruttamento a cui erano costretti, e il politico si inalbera, sbatte il pugno sul tavolo dicendo che quelle cose non dovevano più ripetersi, però accidentalmente fa cadere la lampada d'olio che illuminava quella piccola sala. Sono passati mesi, sono passati gli anni, ai minatori è toccato comprare una nuova lampada, ma le condizioni di lavoro e di miseria a cui erano costretti a vivere continuarono a persistere. Ecco, non vorrei, fatto questo esempio, perché non vorrei che oggi spesso si sentono le interviste, le dichiarazioni, dobbiamo fare qualcosa, ci sono milioni di giovani che aspettano questa riforma del mercato del lavoro. Dobbiamo fare la legge sulla nuova cittadinanza sui cittadini. Ecco, più sobrietà da questo punto di vista, meno annunci e più fatti, e avere più azioni vuol dire avere interazioni con chi queste azioni li aspetta davvero. Grazie. Allora, spesso c'è la Gilda D'Angelo che si era iscritta prima a parlare, come ultima persona, non c'è, allora facciamo parlare di lei, Barbara, che è l'ultimo intervento. Ciao a tutti, sono Barbara Vaccarella, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Como, e la mia parola oggi, la nostra parola oggi, sarà riscatto. Per capire bene il tema che desidero trattare insieme a voi, sento il dovere di leggervi un discorso davvero importante, che tratta i temi fondamentali per la nostra società attuale. Nei tempi in cui il futuro fa paura, nei tempi in cui la disoccupazione giovanile risulta essere il dato più gravoso del lavoro oggi, i giovani e la politica attendono il proprio riscatto. A noi spetta il riscatto generazionale. Vi leggo il discorso. Vorrei cominciare questo mio ragionamento ricordando per prima cosa ciò che dice l'articolo 34 della Costituzione. L'articolo 34 dice: i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E se non hanno i mezzi? Allora nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione. L'articolo dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine pubblico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi è il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo per la persona umana. Quindi dare un lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti. Soltanto questo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo 1, quindi l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, corrisponderà alla realtà. Questo discorso è un discorso davvero semplice, ma soprattutto sentito e reale. Reale perché per una società vittima del periodo storico a cui appartiene. Questo discorso è di Piero Calamandrei. È l'introduzione del discorso rivolto ai giovani sulla Costituzione ben 57 anni fa. Certo, è errato affermare che tutto è rimasto così come in quei tempi. Nel decennio successivo i giovani hanno compiuto grandi rivolte, soprattutto nel mondo universitario. Ma Calamandrei in questo discorso tratta un tema che è ancora attuale, il problema del lavoro. Se la nostra Repubblica non rimuove gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, quindi dare un lavoro a tutti e dare una giusta retribuzione a tutti, viene meno il principio contenuto nell'articolo 1 della nostra Costituzione. Questo ci deve far riflettere sui dati che abbiamo a disposizione. Il 33% dei giovani è disoccupato. In Italia sono i 2 milioni i NEET. È una sigla inglese per definire chi non studia, chi non lavora o chi non si sta specializzando. Ma ve ne sono ancora due dati, ancora più importanti. Il primo riguarda la fuga dei cervelli all'estero. Il 7% dei ricercatori sono all'estero e tra la maggior parte ci sono i giovanissimi. E l'altro dato riguarda i giovani che vivono all'estero, che attualmente sono 45.000. Ma probabilmente una cifra simile è quella dei giovani che non si sono ancora cancellati dal registro anagrafe, per un totale di 100.000 giovani italiani residenti all'estero. Allora viene da porci una domanda. L'Italia è un paese per giovani. Quale futuro riserva per noi? Il problema dei giovani in Italia non è soltanto economico. Siamo una generazione sfiduciata, disillusa e che non trova sbocchi e non vede un futuro. Ed è per questo che oggi la nostra parola è riscatto. L'Italia deve garantire un futuro ai giovani, deve fare in modo che le nostre generazioni possano trovare un lavoro qui, anche per ripagare la spesa economica che lo Stato ha sostenuto per darci una formazione scolastica completa. E quindi l'Italia deve intervenire per questo. Oggi l'Italia è affidata ai tecnici, ma tra un anno vi sarà ancora una classe politica alla guida del nostro Paese. Occorre tener conto di quei dati indicati precedentemente e rimuovere quegli ostacoli che violano la libertà e la dignità dei cittadini. Quindi mi rivolgo ai miei coetanei e vi chiedo se anche voi sentite la necessità di fare qualcosa. Non sentite la necessità di costruirvi un futuro, basta dire che è solo colpa di quelli che sono al potere. Se non ricominciamo a creare le condizioni per un futuro migliore, se non ci mobilitiamo e attiviamo per creare una nuova strada, una strada a scorrimento veloce a sostituzione di questo vicolo stretto e ingorgato di cui siamo vittima, beh, allora saremo davvero vittime di una società che non punta sui giovani. Se i giovani iniziassero a prendere parola, a partecipare alle giovanili di partito, anche ai comitati spontanei di cittadini, insomma a rimboccarsi le maniche gettando le fondamenta per un futuro migliore, sono convinta che le cose cambieranno e miglioreranno. Il treno di prossima fermata Italia è passato da Como. Non perdiamo l'occasione per andare verso un futuro migliore. E quindi, giovani, riscattiamoci. Allora, come avrete visto, la tecnologia non ci ha aiutato oggi e avevamo molti altri piccoli filmatini che erano delle piccole perle che volevamo farvi vedere, ma ci rinunciamo. Uno a cui tenevo molto io era l'intervallo di Sucate. Non so se sapete che cos'è Sucate, ma è stato il punto di svolta della campagna elettorale della Moratti dell'anno scorso. È successo che c'è stato un burlone che ha su Twitter andato a dire: ma signora sindaca, cosa ne pensa della moschea abusiva di Sucate? Chiaramente la moschea abusiva di Sucate non esiste, però qualcuno molto zelante, qualche collaboratore del sindaco, ha scritto: ah sì, ci penseremo, andremo a dare un occhio. E da qua è partito tutto un infinito su internet, un infinito fiume di scherzi, ovviamente contro la Moratti, che ha fatto secondo me partire un po' la bilancia dalla parte di Pisapia, per fortuna. E quindi noi ci auguriamo che qualcosa del genere succeda anche a Como, perché vogliamo che a maggio vinca Mario Lucini e diventi sindaco di Como. Magari Guido, dove sei? Guido? Ero dietro le quinte. Allora, vi ringraziamo per averci seguito oggi pomeriggio. Speriamo di vederci a un'altra prossima fermata. Magari prima l'anno prossimo. Vediamo se riusciamo. E vi ricordiamo che all'ingresso ci sono dei libri e c'è la cassa offerta. Noi speriamo che le elezioni vadano bene, comunque terremo sempre alta l'attenzione, comunque vada nelle elezioni, perché credo che questo sia un impegno che ci prendiamo tutti. Ci prendiamo tutti perché crediamo che questa città possa effettivamente rinnovarsi e rinascere. E rinascerà sicuramente anche attraverso le parole, anche attraverso le azioni che seguiranno alle parole. E oggi ne abbiamo ascoltate molte, per cui ringrazio coloro che sono intervenuti nei loro discorsi, ringrazio coloro che hanno ascoltato, ringrazio per la pazienza anche per gli inconvenienti che abbiamo avuto e alla prossima fermata. Grazie. Thank you.